A tempo di sport di Giovanni Capuano. Vi ricordo subito i contatti 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Oggi è una domenica pomeriggio particolare perché sta regalando poche emozioni sui campi di calcio della Serie A. Rapidamente i risultati: c'è il Genoa che vince 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta, 0-0 tra Chievo e Siena, vince 1-0 la Sampdoria contro il Bologna, vince 1-0 il Torino contro la Fiorentina e sta vincendo 1-0 anche la Roma a Pescara, reti di Destro in apertura, però lo avete sentito, soltanto 4 gol fin qui e siamo nell'ultimo quarto d'ora di queste partite, di una giornata che in realtà vive nell'attesa di Milan-Juventus di questa sera e poi delle gare dell'Inter a Parma, del Napoli a Cagliari domani e martedì della Lazio contro l'Udinese. Noi comunque vi racconteremo tutta questa giornata. È un pomeriggio però che vive sulla grande conclusione della Formula 1, perché manca mezz'ora esatta al via a San Paolo dell'ultimo Gran Premio della stagione. Anche questo ve lo racconteremo in diretta con il nostro Dario Ricci e poi commenteremo l'andamento di questa gara che per Alonso significa l'ultima speranza di portare a casa il mondiale, speranza difficile, e tra l'altro non sarà come sembrava una gara con la pioggia, e questo rende ancora più complicata l'impresa dello spagnolo. Intanto c'è calcio di rigore per la Fiorentina che era sotto 1-0 a Torino. Io però saluto Giuseppe Cruciani. Buon pomeriggio Giuseppe. Ciao Giovanni. Ciao. Giuseppe, sei a Firenze dove questa mattina hai partecipato alla maratona di Firenze. Allora raccontaci un po'. Beh, maratona con sponsor Radio 24 naturalmente per il secondo o terzo anno di seguito, non mi ricordo. Beh, me ne sono andato a metà, questa è la questa. Quindi è la non realtà. Hai vinto, questa è la notizia. che insomma vincere era piuttosto complicato visti gli etiopi, keniani eccetera, però insomma causa influenza insomma, ho deciso sin dall'inizio di fare solamente metà maratona, per cui a un certo punto ho visto l'albergo e sono scappato in camera. Ho fatto un po' come Renzi, perché ho incontrato all'inizio della maratona, anche lui da qualche anno si diletta come tutti i matti oltre i 40 anni, anzi no, Renzi ne ha qualcuno in meno. Quindi Renzi era alla maratona di Firenze questa mattina, perché viene segnalato come l'unico dei 5 candidati a non aver ancora votato. Intanto invece io segnalo il pareggio della Fiorentina a Torino su calcio di rigore e siamo poco prima della mezz'ora del secondo tempo, dunque Torino 1, Fiorentina 1. Quindi Renzi questa mattina era, io non credo, a correre la maratona. Sì, no, ha fatto l'anno scorso la corsa era finita. Quest'anno a causa primaria non si è potuto allenare, io l'ho incontrato alla partenza e ha fatto metà maratona praticamente come me, un po' più lento e poi è tornato a casa, non so se abbia votato oppure no. Comunque insomma la cosa importante è che è stata una straordinaria giornata di festa in tutta Firenze, come sono sempre le maratone organizzate molto bene qui a Firenze. Per me è andata come è andata, pazienza. Ci potrei riprovare serenamente l'anno prossimo, magari non chiamiamo i keniani, così hai qualche possibilità in più. Senti, volevo invece capire, proiettandoci su quello che accade questa sera qui a San Siro, Milan-Juventus, qual è il tuo pensiero su questa che noi ne abbiamo parlato ieri con il presidente della Lega Calcio Beretta, rimane ancora l'etichetta del calcio italiano, anche se con quei 17 punti di distacco che rappresenta il record storico in un girone d'andata, è proprio l'etichetta di questo momento di crisi e di passaggio di quello che è il nostro movimento. Sì, no, al di là delle etichette è sempre Milan-Juventus. Sulla carta ovviamente non c'è partita, nel senso che se la Juve è nettamente favorita anche dal punto di vista, credo, tattico, dal punto di vista delle motivazioni e della forma. Certo che la vittoria del Milan in Belgio ha ridato un po' di smalto, e comunque la Juventus quest'anno qualche battuta d'arresto l'ha avuta, per cui se sulla carta non c'è partita, però poi insomma qualche speranza, soprattutto dal punto di vista delle motivazioni dopo la partita di Bruxelles, e Milan ce l'ha. Sì, intanto 2-1 del Torino sulla Fiorentina, ha segnato Birsa, ma in realtà è stata una dormita della difesa viola su un tiro cross del giocatore, del centrocampista del Torino. Si sono addormentati un po' tutti, pallone che ha rimbalzato al limite dell'area piccola e si è infilato nell'angolino. Tornando a Milan-Juventus, Giuseppe, io trovo davvero surreale il modo in cui con 10 parole ieri Berlusconi si è riuscito a licenziare Allegri, probabilmente anche Mancini, perché svelando che il Manchester City sta inseguendo Guardiola, io non so se ha fatto un favore a Mancini. E poi qualcuno ha notato anche che nello stesso pomeriggio ha di fatto licenziato Alfano, dicendo che si rimette in campo per il PDL. Ma non è surreale, però restiamo, diciamo, al calcio. È la normalità, sì, no, lasciando perdere la vicenda di Alfano. È l'assoluta normalità, cioè, quando Berlusconi comincia a ridare le carte non si sa mai quello che succede. Diciamo che nel calcio ci ha quasi sempre preso che insegua Guardiola. Insomma, io sono convinto che anche Allegri è consapevole che di fronte secondo me è già licenziato e comunque non verrà confermato al di là di Guardiola. Però credo che anche Allegri sia consapevole che di fronte a Guardiola non è che può accampare, diciamo, no? Non è che può accampare alibi di nessun tipo. Sì, ma è una strategia un po' bizzarra comunque quello di annunciarlo in questa maniera a metà novembre, sì. Perché siamo a metà novembre, però è una situazione di ambiguità che si trascina in realtà dalla fine dello scorso campionato, per cui ovviamente poi il mercato ha tolto pedine ad Allegri, il campionato sta andando male, dunque questa ambiguità si è esasperata e vivremo fino alla fine dell'anno, se Allegri sopravviverà, e come penso che sopravviverà fino alla fine dell'anno, con questa ambiguità. Ora, se Berlusconi riesce a trovare un sostituto all'altezza, bene, altrimenti può darsi anche che ci sia, per motivi economici, un altro anno di ambiguità, cioè con un allenatore che il presidente non vuole più, è un sogno da inseguire, chissà quale, poi dopo Guardiola ce ne sarà magari un altro. Sì, anche perché comunque ieri Berlusconi per l'ennesima volta, ma questa per lui ormai è tradizione, ha di fatto dettato la formazione, tant'è vero che oggi si fa fatica a capire quale sarà la formazione che il Milan schiererà questa sera, perché nella rifinitura Allegri ha provato una squadra, però ci sono quelle indicazioni sulla necessità di utilizzare Robinho da titolare, sulla volontà di Berlusconi di mettere Boateng come finto centravanti. Probabilmente il dopo Allegri sarà il vecchio allenatore dell'Edil Nord, se davvero Berlusconi resterà con tanto tempo libero, perché l'impressione è quella che si stia anche divertendo. Ma sì, in questa situazione di caos in cui Allegri è sostanzialmente fuori però è dentro, in cui è tornato a comandare lui, in cui non c'è un manager di peso dal punto di vista, parlo calcistico, non mi riferisco a Galliani, è evidente che Berlusconi a dare le carte. Però il fatto stesso che voglia Guardiola significa che in qualche modo, cioè, non è che prendi Guardiola per poi dettarti la formazione, no, cioè prendi Guardiola per farlo diventare allenatore dei prossimi anni del Milan, per cui lui in realtà vorrebbe trovare uno che secondo lui ne sa più di lui, no? Che ne sa più di Berlusconi stesso. Lui dal punto di vista calcistico si sente superiore ad Allegri, non si sente superiore a Guardiola, vorrebbe trovare qualcuno che ne sa più di lui. Sì, non c'è dubbio. Come finisce stasera? Boh, secondo me vince la Juve 3-1, però è interessante soprattutto il risultato della Fiorentina oggi, perché se la Fiorentina perde a Torino... Sì, Fiorentina che è sotto, tra l'altro una Fiorentina sfortunatissima, perché è una partita che non sta giocando male la squadra di Montella, è una partita iniziata senza Jovetic, poi nel primo tempo per infortunio ha perso prima Toni e poi anche Aquilani, malgrado tutto ha creato grandi occasioni, il Torino ha fatto un paio di tiri in porta e ha segnato, e questo è il calcio. Io credo che difficilmente si potrà parlare di ridimensionamento per la Fiorentina dopo questa partita, in fondo le strisce di vittorie consecutive, ed erano 5, sono fatte anche per essere interrotte, però è evidente che poi serve la continuità per restare al terzo o al quarto posto. Sulla carta questa non che fosse una partita facile, perché Torino è una buona squadra, però dopo 5 vittorie consecutive, tra l'altro la maggior parte senza Jovetic, insomma ci si poteva aspettare magari, poi insomma manca ancora del tempo, però insomma, se la Fiorentina oggi metteva a segno un'altra vittoria, insomma, si proponeva anche. Sì, certamente si sarebbe accreditata come una squadra competitiva per uno dei primi tre posti, che poi sono i posti per la Champions League. Detto che, e questo è il mio parere personale, in realtà la gara per il primo posto in questa stagione non ci sarà, perché la Juventus è troppo superiore rispetto a tutte le altre, e quello di questa sera a San Siro sarà un banco di prova importante, io credo, soprattutto da questo punto di vista, perché potrà dare un segnale, perché vincere a San Siro, anche se il Milan è in queste condizioni, non è mai facile. Stasera ci sarà il pienone, sarebbero eventualmente tre punti pesantissimi. Assolutamente sì, però dal punto di vista tecnico, per l'andamento del campionato, la partita più interessante di oggi e di questo weekend, secondo me, è proprio quella della Fiorentina. Cioè, se la Fiorentina fosse riuscita a dare continuità ai suoi successi, sarebbe diventato un rivale serio anche in chiave, non dico scudetto, ma sicuramente secondo o terzo posto. Adesso questa sconfitta, non dico la ridimensiona, ma poi secondo me per la Juventus questa partita è importante, ma insomma anche con un pareggio credo stasera non è che cambia molto. No, assolutamente. Per chiudere, Giuseppe, oggi sì. Stramaccioni ha detto che la scelta di tenere fuori Sneijder è una scelta assolutamente tecnica, è una scelta sua, quindi dell'allenatore, ed è una scelta perché in questo momento Sneijder non fa parte della possibile formazione migliore dell'Inter. Devo dirti che io preferivo il Branca di ieri, cioè almeno diamo un nome esatto alle cose. La chiarezza del Branca di ieri, sicuramente, cioè Branca, anche se con parole un po' diplomatiche, ha fatto capire a tutti la realtà, cioè che per me è folle, eh? Cioè nel senso che tenere fuori un giocatore perché non si vuole spalmare l'ingaggio è una cosa ridicola, cioè non si è mai sentita, non si è mai sentito ufficialmente, ma non ha alcun senso, cioè non fossi un giocatore sarei incazzato come una bestia. Sì, qualcuno mi deve spiegare qual è la differenza, al di là che poi ovviamente ci sono delle sfumature anche importanti, ad esempio fra questo trattamento e quello che Lotito riserva a Diakité in questo momento, esatto, in passato ha riservato ad altri giocatori, e Lotito è sempre stato stigmatizzato. In questo io trovo che l'Inter goda davvero di buona stampa, perché oggi non ho letto un'analisi secondo me seria di quello che ha detto Branca ieri e di quello che sta accadendo in questo momento. No, sono d'accordo con te. Se questa è la vera motivazione, cioè altri presidenti sono stati martirizzati per aver tenuto fuori rosa dei giocatori che non volevano rinnovare o che erano in trattativa con altre squadre. Qui si sta chiedendo a un giocatore con un contratto in essere fino al 2015 di spalmare il suo ingaggio riducendolo di 2 milioni di euro. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, con un contratto in essere fino al 2015, non in scadenza, contratto in essere fino al 2015 firmato non da Marziani. Cioè, firmato dallo stesso Branca. Chi all'Inter ha potere di firma, quindi insomma voglio cedere il giocatore, allora stiamo cercando di cedere il giocatore a gennaio, allora decido di non metterlo in squadra perché tanto lo cediamo a gennaio, oppure non puoi tenere fuori rosa o comunque non far giocare un calciatore perché vuoi fargli spalmare il contratto perché adesso è cambiato il mondo. Ho letto delle frasi di Branca incredibili: è cambiato il mondo, l'economia intanto ha pareggiato la Fiorentina e l'Hamdaoui 39esimo del secondo tempo, dunque Torino 2 Fiorentina 2, ha pareggiato l'Hamdaoui. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche ieri con il presidente Berretta, che ha detto servono però dei segnali. Io non concordo assolutamente, piuttosto poi fai un accordo come è stato ad esempio nella stessa Inter per Giulio Cesaro o Lucio, lascia al giocatore il cartellino e se non puoi più sostenere quel tipo di stipendio lo fai andare via, però c'è qualcosa che non funziona, c'è una zona grigia in questo comportamento, e io credo che sia sottovalutato l'impatto, perché stiamo parlando di Sneijder, di un giocatore che va sui giornali, pensiamo che cosa possa accadere ad esempio in Lega Pro o nelle serie ancora minori dove invece i riflettori non si accendono. No, ma hai ragione, cioè non è questione di proteggere per forza i contratti che hanno i calciatori, qui non si vuole difendere nessuno, si vuole difendere un minimo però di serietà, cioè quel contratto là è stato firmato, ripeto, non 100 anni fa, ma qualche anno fa, dall'Inter stesso, da Branca stesso, a 6 milioni di euro, adesso si propone una riduzione per un giocatore, addirittura prendendo a pretesto la crisi economica mondiale, cioè, o comunque un cambio di strategia. Cioè, allora insomma ci si mette d'accordo, invece di andare a spiattellare queste cose sui giornali, ci si mette d'accordo col procuratore per dire trovatevi un club che vi dà un ingaggio da 6 milioni. Non c'è dubbio. Grazie Giuseppe. Ciao, ciao Giovanni. Ciao. Grazie a Giuseppe Cruciani, noi ci fermiamo, c'è il traffico, io ricordo ancora i contatti 800 24 0024 se volete telefonarci in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, potete scriverci anche sulla pagina Facebook a Tempo di Sport trattino Radio 24 o possiamo chiacchierare anche su Twitter, l'account è @CapuanoGio. Adesso traffico e poi parliamo di rugby. A Tempo di Sport. Siamo alle ultime battute sui campi della Serie A e allora rapidamente Torino-Fiorentina 2-2, la Roma sta vincendo 1-0 a Pescara, il Genoa sta vincendo 1-0 contro l'Atalanta ma giocherà le ultime battute di questa gara in 10 uomini per l'espulsione di Moretti e poi ancora 0-0 tra Chievo e Siena, saranno 3 minuti di recupero e 1-0 per la Sampdoria sul Bologna. Avremo tempo però di parlare e di raccontare questa giornata di calcio e anche il Milan-Juventus che ci aspetta questa sera. Vogliamo invece fare un passo indietro e tornare al pomeriggio di Firenze di ieri, a Italia-Australia di rugby che ci ha emozionato e alla fine ci ha anche fatto soffrire per l'impresa soltanto sfiorata della nostra nazionale, sconfitta per 3 punti dagli australiani. Lo facciamo con Giovan Battista Venditti. Buon pomeriggio Giovan Battista. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio. È smaltita la delusione tua, immagino, dei tuoi compagni. Ieri abbiamo visto Orchera in lacrime per il calcio sbagliato a pochi secondi dalla fine che avrebbe regalato un pareggio storico. Sì, diciamo che siamo tutti ancora molto amareggiati perché veramente ieri ci siamo andati tanto tanto vicino ed è un peccato perché potevamo chiudere veramente un mese molto importante per noi. Ma comunque ecco, i passi in avanti che abbiamo fatto sono tangibili, credo, e sarà sicuramente un'ottima base di partenza per continuare il lavoro e puntare, diciamo, a fare un grande tenazione. Sì, mi pare di poter dire nel bilancio di questi 3 test match che alla fine si chiudono con una vittoria contro Tonga, ma che per paradosso è stata la partita più brutta delle 3, e poi le 2 sconfitte contro Nuova Zelanda e Australia, mi pare di poter dire che nel bicchiere mezzo pieno c'è questa capacità che avete mostrato di reagire, di soffrire e di saper cercare di restare sempre in partita anche nei momenti più difficili, come ad esempio è capitato ieri nel primo tempo. Sì, no, siamo contenti perché abbiamo affrontato le squadre, la squadra campione del mondo in carica è una delle più forti e, diciamo, ce la siamo giocata alla pari e ce l'abbiamo messa tutta e purtroppo il risultato poi è stato quello che è stato, ma sicuramente ognuno di noi è veramente molto fiero e orgoglioso del lavoro che ha fatto. E anche la partita, la vittoria contro Tonga, che forse per molti era scontata, non è stato, basta vedere il risultato di ieri. Tonga ha vinto in Scozia. Tutto sommato, io appunto crediamo di aver fatto un buon lavoro. Ci dispiace veramente tantissimo per il risultato, forse troppo ampio con la Nuova Zelanda e soprattutto per la mancata vittoria di ieri. Ma abbiamo questi mesi per lavorare duro e cercheremo di ottenere la prima vittoria già subito a 6 nazioni. È un gruppo, quello della nazionale azzurra, che si sta allargando. Mi viene in mente l'esplosione di Minto soprattutto in queste 3 settimane, poi Gori, Cittadini, lo stesso Favaro, poi ci sei tu. A Jacques Brunel era chiesto anche di provare a seminare per un nuovo ciclo. Anche da questo punto di vista mi sembra che il bilancio possa essere positivo. Sì, diciamo che i giovani di talento in Italia ci sono. Tutti noi siamo contenti del coraggio che ha dimostrato di avere il nostro allenatore Jack, perché senza troppo timore, diciamo, ci ha buttato dentro della mischia, chi prima, chi dopo, ma ognuno sta ottenendo il proprio spazio e serve a tutti per migliorare la competizione che si crea giustamente in un gruppo e credo che ci sia veramente un ottimo equilibrio tra i più esperti, ecco, appunto i nuovi arrivati come me. Diciamo, rendiamo tutti dalla stessa parte, quindi credo che sicuramente stiamo creando le fondamenta di un gruppo che potrà fare delle belle cose. Cosa manca per riuscire ad arrivare ad avere la stessa intensità per 80 minuti? Io non credo sia soltanto un discorso fisico, però anche in queste 3 partite vi è sempre mancata un pezzo di partita. È successo anche con l'Australia, era successo negli ultimi 20 minuti con la Nuova Zelanda. Che cosa manca? È anche una questione di testa, di maturità, di crederci. Sì, sicuramente l'esperienza a questi livelli, diciamo la poca esperienza a questi livelli la paghi cara. non ci possiamo permettere di regalare gli ultimi 20 minuti a una squadra come la Nuova Zelanda, né tantomeno regalare un parziale di 22-6 all'Australia nel primo tempo. Quindi questo poi ci penalizza alla fine. Però ecco, abbiamo bisogno di essere più cinici e sicuramente il lavoro fisico va fatto, perché sono partite di veramente altissimo livello e forse pochi di noi c'erano abituati. Però comunque ecco, fanno veramente, creano un bagaglio di esperienza molto molto importante. Per chiudere, sei nazioni, io mi sono segnato due date, 23 febbraio Italia-Galles, 16 marzo Italia-Irlanda. Intanto è finita Genova, Sampdoria batte Bologna 1-0. È un sei nazioni che può regalarci qualche sorpresa, qualche vittoria, qualche soddisfazione? Beh, noi puntiamo già alla prima partita contro la Francia, perché in ordine cronologico 3 febbraio è quella che ci vede protagonisti per primi, sì, e poi che appunto vogliamo rifarci anche della sconfitta che abbiamo subito in casa loro. Noi dobbiamo giocare per competere con ogni squadra, anche se forse qualcuno è più blasonata di noi, ma ecco, l'importante è sicuramente tenere il punteggio vicino e poi vedremo negli ultimi 10 minuti come saremo messi. Grazie GB Venditti. Prego, buona serata a tutti, arrivederci. Grazie GB Venditti, siamo tornati dunque sulla meravigliosa prestazione dell'Italia del rugby ieri a Firenze contro l'Australia. Vi abbiamo detto Sampdoria 1, Bologna 0, si sta giocando ancora sugli altri campi, c'è in 10 anche il Chievo, espulso Samassà, e siamo nel tempo di recupero 0-0 contro il Siena. Saluto Dario Ricci, buon pomeriggio Dario. Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Dario Ricci che ci aiuterà per tutto il pomeriggio a raccontare il Gran Premio di San Paolo, manca davvero poco al via, e allora cominciamo a dare qualche informazione a partire credo da quella meteo, perché per tutta la settimana c'è stata la speranza di una gara bagnata, mi pare di capire che invece a San Paolo faccia bel tempo. Intanto il Genoa ha vinto a Bergamo, è finita 1-0 per il Genoa. Dario? Direi che bel tempo è un po' una parola grossa, perché anzi proprio adesso iniziano le prime gocce, tutti con l'impermeabile, e staremo a vedere innanzitutto l'intensità della pioggia, ma grossi nuvoloni sul circuito di Interlagos. A vedere gli spettatori, appunto, tutti aprono ombrello e casacchina e mantellina, quindi direi che il fattore pioggia sarà sicuramente determinante. Fernando Alonso pochi istanti fa è salito sulla sua vettura, lo ricordiamo, parte dalla settima posizione sul lato destro della pista, davanti a lui il Pullman Hamilton, affiancato dall'altra McLaren di Button in prima fila, poi Webber e l'altra Red Bull di Vettel che parte quarto, e ricordiamolo, basta a Vettel un quarto posto per conquistare il successo anche in casa di vittoria di Fernando Alonso. Ma insomma, la gara si preannuncia apertissima, terza fila tra l'altro con Massa che parte proprio di fronte ad Alonso, e quindi staremo a vedere se le Ferrari fin dalla partenza avranno adottato sì, se ci sarà una sorta di strategia di squadra. E poi sulla sesta piazza Hülkenberg, mentre a fianco di Alonso in ottava piazza troviamo la Lotus dell'ex ferrarista Raikkonen. Comunque ecco, riguardo all'incognita meteo, Giovanni, prime leggere gocce di pioggia, e staremo a vedere nel progredire della corsa quale sarà l'intensità di questa pioggia e come influirà sulle strategie di gara. E quindi possiamo dire che fin qui la danza della pioggia sembra aver dato qualche risultato. Ci sentiamo subito dopo il GR. Allora rapidamente, Genoa ha vinto a Bergamo 1-0, 0-0 tra Chievo e Siena, 1-0 della Roma a Pescara, 1-0 della Sampdoria contro il Bologna, 2-2 fra Torino e Fiorentina, in classifica Juventus 32, Fiorentina Inter 28, Napoli 27, via via tutte le altre. In coda non c'è più il Genoa, che è salito a quota 12, ma Siena, Bologna e Pescara con 11 punti. Ora il GR, poi torniamo, il Gran Premio, la Moviola e tutti i nostri ospiti e anche le vostre telefonate. A tempo di sport. Io non so se siete d'accordo, ma ci attende un pomeriggio incredibile per la Formula 1. Subito Dario Ricci, allora, per capire che cosa sta succedendo a Interlagos. Dario? È successo veramente di tutto e siamo appena al secondo giro, perché c'è stata una partenza splendida delle Ferrari e disastrosa per quanto riguarda quello che è appunto il grande favorito al titolo mondiale Sebastian Vettel. Allora, al semaforo verde è scattato subito bene Hamilton, che si è portato in testa, ma ancora meglio ha fatto la Ferrari, perché Massa si è portato subito alle sue spalle e di fatto ha segnato la strada per Fernando Alonso, che attualmente è al terzo posto, virtualmente sul podio. Quello che ha avuto la peggio però è stato Vettel, che seppur scattando dalla quarta posizione, innanzitutto è partito malissimo, si è presto ritrovato risucchiato verso il settimo, ottavo posto. Poi c'è stato un incidente a metà gruppo e proprio Sebastian Vettel è terminato in testa coda, miracolosamente per lui. La sua Red Bull non è stata, sì, non è stato toccato da nessuno, in questo gli è andata bene in modo assolutamente sorprendente. Quindi Vettel ha dovuto riprendere chiaramente la posizione e ha potuto ripartire, sì, ma ora è ultimo in classifica ed è chiamato ad una incredibile rimonta, se tale sarà. Il tutto mentre comincia a piovigginare a Interlagos, a San Paolo, su un asfalto che vale la pena ricordarlo è abrasivo e ben poco drenante, e questo vuol dire che nel momento in cui la pioggia dovesse arrivare ad avere, Giovanni, una maggiore intensità, questo vuol dire che sarà un fattore anche la pioggia. Esattamente. Grazie Dario, torniamo da te fra qualche istante. Rapidamente Sky Sport, c'è Zeman a Pescara. Possiamo fare di più, ma ripeto, se noi riusciamo a eliminare le distrazioni, forse possiamo andare avanti. Se volevo analizzare con lei un aspetto tattico, sembra che ci sia un cambiamento filosofico importante. Lei ha sempre un giocatore che è determinante, quello davanti alla difesa, che è un giocatore che gioca molto in verticale. Sono tre partite consecutive che sta giocando con un mediano, invece nel derby con De Rossi due partite tra l'altro senza prendere gol, con un giocatore che non va molto in verticale. Sì, oggi per la terza volta in questo campionato la Roma non ha preso gol. Allora sentiamo la risposta di Zeman, poi con Graziano Cesari la moviola. Sentiamo Zeman. 40 anni che gioco con mediano basso a proteggere la difesa e verticalizza molto di solito, però dire due mediane che verticalizza giocando la palla su per gli altri movimenti. Magari oggi non l'abbiamo fatta, abbiamo giocato un po' troppo orizzontale, abbiamo dato spesso tempo a Pescara di sistemarsi e non abbiamo concluso quello che potevamo concludere. Sì, avrà giocato anche in verticale la Roma questo pomeriggio, fatto sta che ha vinto a Pescara 1-0, terza vittoria nelle ultime quattro partite, in mezzo c'è soltanto il derby bucato con la Lazio, terza partita, seconda consecutiva senza prendere gol. Buon pomeriggio Graziano. A voi. Oggi poco lavoro mi sembra per gli arbitri, e non solo perché c'erano soltanto cinque partite, mi sembra che generalmente non sarà una moviola che farà discutere, anche se poi è ovvio che il piatto succulento arriva questa sera con Milan-Juventus, sei d'accordo? Speriamo assolutamente di no, voglio dire, speriamo che continui così una giornata abbastanza positiva, anche se credo che a Bergamo con l'Antuono sì, si lamenterà parecchio. Non c'è dubbio. Allora dai, partiamo proprio da Bergamo, cominciamo, 26esimo del primo tempo, c'è un gol annullato all'Atalanta per un fuorigioco di Maxi Morales su assist di Denis. In questo caso l'assistente Rubino non è molto molto fortunato, la sua posizione è assolutamente sbagliata, è molto più avanti da dove si svolge l'azione dall'ultimo difendente, che in questo caso è Granqvist, e non accoglie che lo scambio Denis Morales è perfettamente regolare. Da lì nasce l'annullamento del gol del vantaggio, sarebbe stato il vantaggio dell'Atalanta. Sì, erano solo 0-0. Esatto, è proprio un gol assolutamente regolare. Assolutamente. E poi nel finale di primo tempo c'è l'episodio più eclatante per le proteste dell'Atalanta, c'è una presunta trattenuta, a me pare evidente, ma diciamo comunque presunta trattenuta di Sampirisi su Bonaventura all'interno dell'area di rigore del Genoa. Una scorrettezza che meritava il calcio di rigore, perché il pallone nasce dalla testa in attacco da parte dell'Atalanta e questo cos che taglia tutta l'area di rigore si sta avventando col piede sinistro Bonaventura, Sampirisi è in ritardo e a questo punto va direttamente allargando il bacio sinistro sul giocatore dell'Atalanta. È chiaro che c'è anche un provvedimento disciplinare, non diciamo rosso, ma sicuramente un giallo. Sì, invece viene ammonito Bonaventura per simulazione. L'Atalanta lamenta anche molto la gestione dei cartellini da parte dei doveri. In realtà il Genoa finisce in 10 perché l'espulsione di Moretti arriva a pochi minuti dalla fine. Hanno ragione a protestare sulla gestione disciplinare di questa partita? Nel primo tempo assolutamente sì, perché Kučka è stato graziato per ben due volte, tant'è che l'Atalanta si è lamentato moltissimo. Il primo fallo è il 27esimo del primo tempo su Manfredini, un moltissimo intervento del giocatore del Genoa, che arriva nettamente in ritardo, salta altissimo e travolge il centrale dell'Atalanta. La seconda volta è sempre il giocatore del Genoa che cerca di interrompere, quindi diciamo così un fallo tattico, ma in questo caso, anche in questo caso, l'arbitro grazia il giocatore del Genoa, riprendendolo solo verbalmente. Ed è inspiegabile poi quello che succede verso la fine della partita. Siamo al 45esimo del secondo partita di gioco, per un fallo assolutamente normale viene combinato la seconda sanzione, un secondo giallo a Moretti, e c'è l'espulsione di Moretti. E allora recuperiamo il collegamento con Graziano Cesari. È un po' disturbata la linea, un flash dalla Formula 1, Dario Ricci. Parecchio però da dire, Giovanni, perché siamo al settimo giro, in testa ancora Hamilton e Button, ma è al terzo posto di Hülkenberg, e quarta piazza per Fernando Alonso, che al quinto giro è andato lungo ad una curva che gli ha portato subito alle calcagna l'altra Red Bull di Webber. Bravissimo nel giro successivo Massa a passare proprio Webber e quindi a porsi quasi in una posizione di scudiero per Alonso, e proprio durante il settimo giro è stato lo stesso Webber a finire in testa coda e quindi a perdere contatto dalle due Ferrari. Siamo quindi all'ottavo giro, in testa Hamilton e Button combattono per la prima posizione, finora alla meglio Hamilton, poi Hülkenberg e poi abbiamo Alonso e Massa, e queste sono le primissime posizioni quando siamo all'ottavo giro e la pioggia si fa sempre più insistente, mentre Vettel è risalito fino alla settima posizione, scatenato il tedesco. Vettel in questo istante è settimo alle spalle di Kobayashi. E quindi possiamo dire che in questo momento Vettel è ancora campione del mondo. Graziano, torniamo invece alla moviola della giornata. Sampdoria-Bologna 1-0. Subito in apertura, dopo 5 minuti, c'è l'espulsione di Morleo per una dura entrata su Icardi. Siamo sulla tre quarti. Potrebbe essere un'espulsione per un fallo da ultimo uomo. In realtà io credo che ci sia anche la violenza dell'intervento. Assolutamente, credo proprio questo che sia il provvedimento decretato da Cieli, il rosso diretto proprio per gioco violento. È quasi impossibile poter parlare di chiara occasione da rete a una distanza tale dalla porta difesa dagli altri. Sicuramente si disinteressa completamente Morleo del pallone, va direttamente sui Cardi, quindi rosso diretto, ma credo proprio, anzi penso assolutamente, per gioco violento. Sì, e poi invece vogliamo applaudire Poli, che in occasione della rete della vittoria della Sampdoria resiste in piedi in area di rigore malgrado un'evidente trattenuta di Motta. Io credo avrebbe anche potuto lucrare un calcio di rigore, invece sta in piedi e segna, e secondo me merita un applauso perché è un giocatore molto giovane, molto interessante, che nella sua carriera calcistica ha subito tanti infortuni, difetto di professionalità sicuramente no, grande correttezza, e allora ha meritato il secondo gol dopo quello nel derby. Non c'è dubbio, un minuto traffico, torniamo subito dopo. A tempo di sport. 800 24 00 24, se volete vivere il Gran Premio con noi, dirci che cosa ne pensate anche al 349 238 6666. 15 secondi alla Formula 1, Dario Ricci. Decimo dei 71 giri in programma Interlagos, Sebastian Vettel sta rimontando ed è attualmente sesto, mentre Webber si è fermato al pit stop. Pioggia leggermente più intensa, classifica che vede Button, Hamilton, Hülkenberg, Alonso, Massa e Vettel al sesto posto, un sesto posto che gli garantirebbe la tripletta mondiale. Sì, tra l'altro io credo assolutamente meritata, perché quando per due volte negli ultimi quattro Gran Premi ti ritrovi ultimo e sei capace di rimontare, però è ancora lunga. Graziano, ci scrivono amici da Bergamo, succede di tutto e per voi è una giornata tranquilla, se avessero penalizzato una grande, ad esempio l'Inter, avreste fatto il finimondo. Ci siamo dimenticati qualcosa? Mi sembra che abbiamo detto chiaramente che l'Atalanta è stata penalizzata questo pomeriggio da doveri. Lo vogliamo ripetere, il gol di Morales era perfettamente regolare, eravamo sul risultato dello 0-0, c'era rigore verso il 46esimo della prima partita di gioco per l'Atalanta sul risultato di 1-0 per il Genoa, un rigore non dato da doveri per questo intervento di Sampierisi su Buonaventura. Più chiari di così, l'espulsione di Kuska forse c'era tutto, per me che sono genuano, per che c'è una missione lì. Va bene, gliel'abbiamo ripetuto. Gliel'abbiamo ripetuto bene, vero? Assolutamente. Torino-Fiorentina 2-2, c'è a metà del primo tempo uno scontro aereo tra Glick e Toni. Questo non è un episodio disciplinare, però si sono vissuti minuti di paura con i due giocatori a terra. E mi sembra di poter dire che bene ha fatto D'Amato a sospendere immediatamente la gara per consentire i soccorsi. Assolutamente sì, per l'interpretazione del regolamento corretta, con un Glick che stava correndo di testa verso per andare a colpire il pallone in elevazione, ha colpito invece del pallone la testa di Toni, sono caduti al suolo i due giocatori. Bravissimo D'Amato a interrompere il gioco, velocissimi i sanitari, poi sappiamo come è andata a finire, che ho dovuto lasciare immediatamente il terreno di gioco. E Toni pochi minuti dopo, certamente. 29esimo del secondo tempo, il rigore del pareggio dell'1-1 della Fiorentina realizzato da Rodriguez è per un contatto D'Ambrosio Cuadrado. Nessun dubbio in questo caso, bravissimo D'Amato, ma bravissimo anche l'assistente Mazzoleni, l'arbitro d'area. È Cuadrado che entra in aria e viene toccato sul piede sinistro dal destro di D'Ambrosio dopo una sterzata, quindi inevitabile il calcio di rigore. Mi sembra che non ci sia altro in questa partita. Io non ho segnato neanche episodi per Pescara Roma. C'è solamente un fallo di mano in area di Marchino che arriva nella seconda frazione di gioco, circa il 40esimo, ma devo dire che a mio parere è assolutamente involontario, perché dal corso dalla destra in attacco del Pescara tocca la palla Nielsen e il pallone va sulle mani di Marchino, ma è già questa posizione, tant'è che i giocatori del Pescara non reclamano assolutamente la concessione del penalty. Sentiamo un attimo Del Neri, Sky Sport. L'applicazione, c'è stata un po' di fortuna, come un grande portiere come oggi ha fatto 2-3 parate importanti, quindi ci sta tutto. Però prendere punti a Bergamo penso non era per nessuno facile, quindi ha dimostrato l'Inter in difficoltà, ha dimostrato Napoli in difficoltà, e noi secondo me per prendere punti a Bergamo qualcosa di nostro ci hanno ammesso, e quindi mi sembra che la squadra abbia fatto il proprio dovere. Questa è la gioia di Gigi Del Neri. Graziano, per chiudere Chievo-Siena 0-0, c'è l'espulsione di Samassà proprio nel finale. Un pochettino esagerato il secondo giallo per una caduta, per un tentativo di simulazione, mi sembra che in questo caso Massa abbia esagerato, però insomma non influisce certamente sul risultato. Io intanto saluto Pietro Lomonaco, amministratore delegato, direttore generale del Palermo. Buon pomeriggio direttore. Sì, buon pomeriggio a voi tutti. C'è anche Graziano Cesari, al quale voglio chiedere, e poi lo salutiamo, invece di raccontarci perché ieri sera a Palermo sono stati ammoniti in panchina Miccoli e Donati, ed è un cartellino pesante perché salteranno per squalifica la partita di San Siro del prossimo fine settimana. Graziano. Perché Miccoli, ho espresso il mio parere proprio a Fabrizio dicendo che mi sembra un cartellino assolutamente esagerato e inadeguato. Quando il pallone finisce in rimessa laterale, Miccoli è lì, se lo fa consegnare dagli addetti al campo e poi aspetta un giocatore del Palermo che possa battere in qualche caso la rimessa laterale. È un eccesso di zelo che non mi è piaciuto assolutamente da parte di Romeo. Direttore Lomonaco. Condivido pienamente con Cesare. Diciamo che trova parziale giustificazione nella concitazione della gara. La nostra panchina evidentemente era un pochino agitata, e lui deve aver frainteso un atteggiamento normale con un qualche cosa di diverso. Comunque, anche lei era agitato, direttore, ieri sera. Abbastanza gratuita. Anche lei era agitato ieri sera, direttore, perché quella bottiglietta e quello striscia che avevi in mano, insomma. Lo sono sempre, quindi diciamo che era una gara abbastanza delicata per noi. Fare i tre punti poteva significare tanto, come in effetti è stato. Ci mettono in una posizione di classifica un attimino più serena, ma sicuramente non ci fanno distogliere, non ci distolgono da quello che è l'obiettivo nostro, che è quello. Posso di cercare fare una di domanda fare... al direttore? Prego Graziano, poi ti salutiamo. Perché so che lui è andato via al 43esimo del primo tempo, non ha incontrato Pulvirenti, quindi niente stretta di mano direttore. No, niente stretta di mano, ma non ci tengo nemmeno, di conseguenza io vado via sempre dopo il primo tempo, scendo negli spogliatoi, aspetto i ragazzi e dopodiché vado. Non riesco penso che non possiamo dare niente a quel punto alla squadra, no? La sofferenza è troppa, vado a camminare, ok? cammino per la città fino a quando non finisce la partita. In fondo ha un presidente che gira in taxi per Palermo proprio perché... Almeno io vado a piedi però. Mangiato dalla tensione dei 90 minuti, io credo sia da questo punto di vista assolutamente comprensibile. Io saluto e ringrazio Graziano Cesari. Ti giro grazie solo l'ultima domanda. Dopo averlo visto in Champions, scrive Paolo da Prato, Cesari pensa ancora che Rocchi sia un arbitro in grande forma? Io rispondo di sì, tu? Sì, assolutamente sì, devo dire che a me è sembrato in ottima forma anche l'altra sera, devo dire che Mourinho esagera sempre negli atteggiamenti e quindi chiaramente non rende certamente facile il compito di un direttore di gara. Ecco, bisogna fare un po' la tara alle polemiche che vengono da Madrid, può esserci stato un errore, ma complessivamente non ha diretto male Rocchi. No, assolutamente no, devo dire che è stato un arbitraggio sufficiente, poi come sempre Asse e gli altri giornali spagnoli esagerano sempre e io ne so benissimo, sulla mia pelle è già successo tante volte. Non c'è più dubbio. Graziano, settimana prossima. Grazie a voi direttore, arrivederci. Restiamo invece con Pietro Lo Monaco. Al di là dell'episodio finale dei cartellini gialli che vi privano di due giocatori importanti settimana prossima a San Siro, io credo che sia un peccato, tra l'altro non ci sarà nemmeno Cassano e Inter Palermo senza Cassano e Miccoli, certamente è una gara con meno fantasia, eh? Ma senza dubbio sono giocatori ritengo indispensabili per tutte e due le squadre, sono giocatori che dispensano grosse abilità tecniche e possono influire sull'andamento di una partita in qualsiasi momento, quindi è un vero peccato non averli della partita. Non c'è dubbio. La vittoria di ieri vi consente una maggior serenità in questo momento della stagione. Noi abbiamo dato un'occhiata prima alla zona bassa della classifica. Il Palermo in questo momento ha dietro 5 squadre, è vero che siete tutti in 3 o 4 punti, però in questo modo vi siete tolti l'urgenza di fare risultato. Ma io diciamo che l'urgenza c'è sempre, però il nostro è un campionato molto molto livellato, c'è un equilibrio anche se in basso veramente esasperato e proprio per la presenza di questo equilibrio esasperato bisogna stare sempre attenti perché chiunque può venire risucchiato in una posizione di classifica non comoda. Io dico che le ultime 10 squadre dell'attuale classifica devono, eccezion fatta per il Milan, devono stare con le antenne belle dritte e non distrarsi mai. Certo, resta poi che a gennaio a Gasperini, come ha detto Zamparini, regalerete una squadra modellata meglio su quelle che sono le sue esigenze. Questo, da questo punto di vista è un momento di emergenza perché avete un allenatore e probabilmente una rosa che non si sposa perfettamente con le sue necessità. Ma questi sono i pericoli dei cambi, quando si cambia si costruisce una squadra per le caratteristiche di un tecnico, era stata costruita la squadra per le caratteristiche del tecnico uscente e poi ci si ritrova con un altro tecnico che ha altre idee e magari si può andare incontro a questo tipo di problematica, di non avere in organico dei giocatori adatti per un certo modulo, che chiaramente si adatta il modulo, però noi abbiamo il dovere, al di là di tutte queste considerazioni, di migliorare il nostro organico a gennaio e lo faremo. Certo, che voto diamo fin qui alla stagione di Dybala o Dybala? Che anche ieri è entrato e ha fatto benissimo. Dybala è un talento, tra l'altro è del 93, ha compiuto qualche giorno fa 18 anni, viene da un altro mondo, lui ha bisogno di crescere, lo stiamo facendo crescere. In tutti i sensi, anche fisici. Sì, è chiaro. È un bambino, è un ragazzino. Si parla di crescita generale, lui ancora fisicamente ha detto bene, è come un bambino, quindi deve formarsi caratterialmente, però ha le qualità per diventare un giocatore importante. Direttore, prima di salutarla, ringraziandola, che idea si è fatto della vicenda Snyder? Dall'ottica di un dirigente, ovviamente. Ma l'idea che l'Inter... ma lo testimonia la gestione delle ultime due stagioni. L'Inter è una società che sta cercando di rinnovarsi guardando con un occhio molto attento al bilancio. Chiaramente avere in organico giocatori come Sneijder, seppur bravi, che costano determinate cifre, può diventare un peso. Quindi l'Inter sta cercando di darlo via, e lui è in attesa di trovare la sistemazione. Si rischia una zona grigia, perché è vero che il regolamento parla semplicemente degli allenamenti e dunque ad ogni giocatore deve essere garantita la preparazione durante la settimana, però poi il confine è sottile tra ciò che può essere lecito e ciò che invece può diventare inopportuno. Io penso che non convenga a nessuno forzare la mano in queste situazioni qua, né al giocatore né alla società. Il giocatore si allena, deve allenarsi, chiaramente mi sembra, come dicevo prima, che c'è la volontà delle parti di concludere un rapporto, però per concludere il rapporto, visto che Sneijder è un giocatore a tutti gli effetti dell'Inter, ci vuole l'acquirente, ci vuole il terzo incomodo, e alle cifre di Sneijder sicuramente non è facile trovare un acquirente. Non c'è dubbio. Grazie al direttore Pietro Lomonaco. A voi, buona trasmissione. Grazie a Pietro Lomonaco. Rapidamente Dario Ricci, Formula 1. 18° giro a Interlagos, straordinaria la rimonta di Sebastian Vettel, che lo ricordiamo ultimo dopo il primo giro, ora è risalito fino alla quinta posizione e già vede la coda della Ferrari di Alonso, che lo precede di appena 2 secondi in un gran premio guidato da Button, che davanti ad Hülkenberg, ma Hülkenberg gli è di fatto attaccato a 5 decimi di distacco. Terzo, ma con ben 16 secondi di distacco, Hamilton, quindi da registrare, straordinaria la rimonta di Vettel. A questo punto titolo in cassaforte, ma la gara è ancora lunga, e in questo istante, Giovanni, da sottolineare che da qualche minuto la pioggia è diminuita di intensità e quindi il circuito si sta lentamente asciugando. E questa credo non sia una buona notizia per la Ferrari, perché c'è bisogno che succeda qualcosa per invertire la tendenza di questo Gran Premio. Grazie Dario, torniamo da te fra qualche minuto, 800 24 00 24, per dirci in diretta che cosa ne pensate su questa rincorsa disperata della Ferrari al Mondiale e su Milan-Juventus di questa sera, ma anche sul caso Sneijder. Montella, Sky Sport. Poi alla fine potevano anche vincere, a me la squadra è piaciuta moltissimo, sia nel come approccio alla partita stessa, sia come qualità. Nel secondo tempo mi è piaciuto anche un po' di più, perché abbiamo accelerato, abbiamo avuto una reazione da una squadra matura che voleva vincere anche se era in svantaggio. Ha giocato con personalità, ripeto, con qualità, dove poi dopo questo forcing continuo nel secondo tempo inevitabilmente puoi concedere qualche ripartenza, soprattutto a questo Torino che ha giocatori di questo tipo, è molto in questo senso molto abili e molto, molto bravi. E dopo l'1-1 abbiamo provato a vincerla, abbiamo subito questo gol rocambolesco per certi versi, e qualsiasi altra squadra all'80esimo, all'82esimo, quando è successo, si sarebbe magari spenta. Invece la squadra ha voluto ancora riacciuffare il risultato, dopo il 2-2 tutti andare a prendere la palla nella rete del Torino per cercare di portarla a termine. E infatti la Fiorentina ha cercato fino all'ultimo di ribaltarla questa partita e di vincerla. Noi ci fermiamo, pubblicità e meteo, poi torniamo alla nostra prima pagina, la diretta dal Gran Premio di San Paolo, e anche se volete i vostri interventi, 800 24 00 24. Pubblicità. A tempo di sport. E allora andiamo ancora subito alla Formula 1. Dario Ricci. Sì, 23° giro a Interlagos, ennesimo colpo di scena perché entra in pista ora la safety car, motivo semplice perché le tante collisioni che vi abbiamo raccontato finora hanno lasciato sulla pista parecchi detriti e che rendono sicuramente difficile il cammino delle monoposto. Quindi gruppo che dietro la safety car è destinato a ricompattarsi. In questo momento quelli che ci rimettono di più sono chiaramente quelli in testa, Hülkenberg e Button, che tra l'altro, non avendo compiuto finora nessun pit stop, avevano ormai un vantaggio siderale intorno ai 45 secondi sul resto della compagnia. Si riparte invece accodandosi alla safety car con Hülkenberg, Button, Hamilton, Alonso e Vettel. Queste le prime 5 posizioni. Inutile quasi sottolineare che, stando così le cose, il tedesco si laureerebbe per la terza volta consecutiva campione del mondo, Giovanni. Sì, ho l'impressione che sia più facile che sia Vettel ad arrivare sul podio o a vincerla questa gara piuttosto che Alonso. Sembra proprio di sì, anche perché finora anche dal box Ferrari le hanno provate tutti, già 2 pit stop per cercare di essere sempre più performanti seguendo la minima variazione delle condizioni meteo e quindi della pioggia sul circuito. Ora la safety car in qualche modo annulla il lavoro fatto fino adesso, anche se come hai visto, Giovanni, ogni giro è successo qualcosa. Sì, di sicuro è una gara aperta. Mancano ancora 48 giri. Buon pomeriggio a Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Buon pomeriggio, bentrovati. Sì, mancano ancora 48 giri, però io sottoscrivo quello che ci ha scritto Maurizio, il 349-238-6666. Sono tifoso ferrarista, ma dico che se questo mondiale lo vinciamo noi è un autentico stravolgimento della realtà. Cioè, Vettel e Red Bull sono superiori, c'è poco da dire. Ma sì, se lo chiedo, sicuramente sì, credo che questo sia stato un po' la storia di tutto l'anno e che questa possa essere la logica conclusione. Poi è chiaro che magari subentra la parte più irrazionale, più emotiva, più di tifosi, e si spera nel miracolo come magari già all'inizio dei primi giri si è sperato. Però credo che onestamente, se guardiamo a tutto il corso di questa stagione, l'abbia meritato, strameritato. Certo, sentiamo una battuta di Colantuono a Sky Sport. Probabilmente ha ritenuto il fallo non passibile di rigore, va bene uguale, dai. Non è sicuramente questo, su questo che noi dobbiamo stare a recriminare per questa sconfitta, anche se è chiaro che poi un episodio può cambiare la partita, però non mi va di parlare onestamente. Signorile Colantuono, mi sembra, Matteo, perché il rigore era abbastanza evidente, lo abbiamo analizzato prima con Graziano Cesari, però c'è anche da dire che l'Atalanta non ha giocato bene questo pomeriggio, non è stata la stessa Atalanta di altre gare interne, e quindi in fondo la sconfitta ci può anche stare, anche se, e lo diciamo e lo sottolineiamo perché poi gli amici da casa si arrabbiano, quello è un episodio che poteva cambiare il senso della partita, però ci piace anche la serenità di Colantuono. Sì, credo che anche sia giusto, insomma, anche perché la sta facendo una bella, bellissima stagione al di là della sconfitta di oggi, ed è giusto anche non caricarlo di eccessivo, come dire, spirito polemico rispetto alla gara. Credo dall'altra parte che sia un successo importante, importantissimo ovviamente per il Genoa, che lascia l'ultimo posto, è un successo pesante, perché vincere a Bergamo sappiamo quanto è difficile, penso per esempio all'Inter, ma insomma anche altre squadre che sono trovate ad affrontare l'Atalanta in questo anche periodo. Anche il Napoli è caduto in questo campionato. Quindi insomma credo che sia indice di una grande prestazione. Ho visto un Del Neri molto molto felice, molto esultante alla fine della partita, lo capisco, perché doveva scacciare via non solo il derby ma anche il periodo nerissimo della squadra. Sì, bastava vedere la faccia di Del Neri a fine partita per capire quanto conta questo successo. Con Matteo Marani apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che racconta il giorno della speranza rossa, ma Vettel sta incantando a San Paolo, gran premio emozionante, titolo in questo momento saldamente in mano al tedesco, che però dopo poche curve si era trovato ultimo, ve lo stiamo raccontando in diretta. E poi il calcio, con la Fiorentina che pareggia a Torino malgrado le emergenze ed è seconda in attesa di Inter e Napoli, terza vittoria nelle ultime 4 per la Roma, che ha imparato a non prendere gol. Questa sera Milan-Juventus all'insegna del come eravamo, Conte ha scelto Quagliarella con Vucinic, Allegri a nervi scoperti dopo essere stato licenziato in diretta da Berlusconi che vuole Guardiola. Infine Sneijder, fuori per scelta dell'allenatore perché in questo momento non fa parte della formazione migliore, parole di Stramaccioni oggi alla vigilia della trasferta a Parma, ma la vicenda dell'esclusione dell'olandese per motivi contrattuali fa discutere e divide. Matteo, volevo partire proprio da qui, lo stiamo chiedendo un po' tutti ai nostri interlocutori questo pomeriggio, cioè capire che cosa ne pensi e dov'è il confine tra ciò che è lecito e anche opportuno dal punto di vista societario e quella zona grigia che invece rende l'atteggiamento dell'Inter nei confronti di Sneijder quantomeno inelegante. Io lo trovo sinceramente antipatico. Detto questo, mi pare che sia ormai una moda molto diffusa nei club, non è certo il primo caso, non è certo l'Inter la prima volta che la prima società che lo fa. Ricordo i tuoi tempi dell'Udinese con Iaquinta, ma ricordo tanti episodi della Juve ancora ai tempi di Moggi e Giraudo. Evidentemente le società che hanno perso potere da un certo punto di vista usano mezzi molto, secondo me, molto discutibili, perché non puoi escludere un giocatore per ragioni contrattuali. Mi colpisce l'allineamento immediato di Stramaccioni, cioè Stramaccioni è chiaro che si schiera in maniera aperta dalla parte della società, e a questo punto mi interrogo un po' anche sullo spogliatoio, cioè Stramaccioni è molto vicino allo spogliatoio dell'Inter, sappiamo che lo interpreta con grande fedeltà, e evidentemente la posizione di Snyder non è considerata così centrale in questo momento. Sì, io credo che si siano accorti all'Inter di poter fare a meno di lui, e probabilmente abbiano il terrore di vedersi riproporre quanto accaduto a gennaio dell'anno scorso o anche in estate, cioè con Snyder che per motivi del tutto legittimi ma personali rifiuta qualunque tipo di destinazione, perché questo poi è lo scenario che si è verificato nei mesi scorsi. Non è la prima volta che l'Inter chiede a Snyder di trovarsi una squadra. Sì, no, la mia impressione è la stessa, cioè io credo che in questo momento Snyder non sia indispensabile per l'Inter, mentre lo è stato nella stagione ovviamente di Mourinho, oggi non lo è più, c'è stato un cambiamento, l'Inter ha cambiato molto, molto forma, molto fisionomia, non è più un giocatore centrale e sta rischiando di trasformarsi in un problema, anzi è già un problema, perché di Snyder in questo momento stiamo parlando soltanto per questioni extra campo, di campo non se ne parla. L'Inter ha un suo equilibrio, insomma, l'ha trovato, mi pare che stia andando avanti con una squadra nuova che può prescindere anche da quello che è il suo giocatore probabilmente migliore in assoluto. Certo, tornando invece a quello che si è visto questo pomeriggio, che voto diamo alla Fiorentina, che ha pareggiato 2-2 a Torino? Sì, no, un voto molto alto, intanto perché comunque il Torino è una squadra insidiosa, difficile, mi viene da dire maltrattato un po' per la seconda volta dagli arbitri, non ha molta fortuna in questa fase con gli arbitri il Toro, però la Fiorentina ha fatto una grande cosa, perché pareggiare questa partita dopo 5 vittorie consecutive vale una vittoria, quindi probabilmente è la sesta da un punto di vista teorico, e l'ha fatto non avendo Jovetic, ovviamente, non avendo Pizarro, che è il giocatore che orchestra e fa girare tutta la squadra, e non avendo per lunga partita Aquilani, che era stato il migliore delle ultime giornate. Quindi è una squadra che riesce ad andare al di là delle assenze, non è poco. Sì, quello che sorprende è il grado di maturità e di convinzione che ha acquisito in più o meno 3 mesi di lavoro questa squadra. Al di là di quelli che poi sono i valori tecnici, che sono evidenti, il lavoro sul campo di Montella, che è un lavoro importante, e credo anche della società nella scelta dei giocatori e soprattutto delle pedine a centrocampo, quello che colpisce è come questa squadra sia cresciuta nella testa rispetto a un anno fa. Io credo che nulla ti dia fiducia a una squadra come il gioco. Cioè, quando tu incominci a giocare, le cose ti vengono, i meccanismi funzionano, prendi fiducia, ci credi. Io ho questa impressione oggi della Fiorentina guardandola. È una squadra in cui chiunque entra sa che entra in qualcosa di formato e di solido, e quindi riesce a dare il meglio. È una squadra che ha molta forza da questo punto di vista, ma secondo me genera proprio dal calcio che fa, dal tipo di gioco che esprime. Grazie Matteo Marani. Grazie a voi, buona serata. Grazie Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. C'è Ferrara ai microfoni di Sky Sport. Vicino al nostro attaccante, di poter combinare in 1-2 con lui, credo che giovi anche a quelle che sono le sue caratteristiche. Il gol è stato veramente perfetto su quelle cose che comunque durante la settimana spesso proviamo. Di Ferrara, che in settimana aveva raccontato come aveva dovuto cercare di convincere Poli della sua capacità e della sua possibilità di poter segnare tanti gol, e per Poli è il secondo gol consecutivo in Serie A dopo 76 gare senza trovare la porta. Ancora una battuta di Ferrara. 77 partite non aveva mai segnato, ne ha fatti ancora 2 su settimana. Poli, certo, e tra l'altro pesantissimi, perché valgono 6 punti, sono valsi la vittoria nel derby e questa vittoria contro il Bologna, che portano la Sampdoria un po' più lontana dalle zone caldissime della classifica. Sentiamo Ferrara. Una prestazione buona, difficile, molto difficile, perché nonostante noi fossimo in superiorità numerica, però facciamo fatica a trovare gli spazi, perché il Bologna è una squadra molto ben organizzata, ben messa in campo, e nonostante l'espulsione si è messa con due linee di difesa e di centrocampo a cercare di limitare la palla filtrante, e noi abbiamo fatto anche poco movimento sinceramente nel primo tempo, nel secondo meglio con le due punte, nel finale obiettivamente secondo me è subentrato un po' di un pizzico di paura all'interno nei ragazzi, perché questi sono tre punti, che sono più di tre punti, è contro una diretta concorrente, è una settimana che comunque ci poteva far vivere tranquilli in caso di vittoria all'approccio a quella che sarà la prossima partita a Firenze, però nel finale obiettivamente abbiamo rischiato qualcosina, è stato bravo in un'occasione il nostro portiere Romero e in altre i loro attaccanti. È stata dura, Ciro, ciao. Sì, Ciro. È stato molto bravo anche il Bologna, che ha giocato in 10 praticamente tutta la partita dopo l'espulsione all'inizio di Morleo, ed è stato capace fino in fondo di creare dei problemi alla Sampdoria. 800 24 00 24 per parlare in diretta con noi del Gran Premio di Milan-Juventus, della vicenda Snyder, della Fiorentina, della Roma, insomma di quello che volete. 349-238-6666 @CapuanoGio su Twitter, oppure a Tempo di Sport Radio 24 su Facebook. Ci fermiamo, traffico, poi subito la Formula 1. A Tempo di Sport. C'è ancora Ferrara Sky Sport, sentiamolo. Oh, sì. Questo posso dire, questo lega a quello che pensavo di dire. Ciro, si può dire che l'ambiente Sampdoria può permettere un lavoro di questo tipo, e nonostante diciamo la serie negativa di sconfitte può permettere anche a un allenatore di perdere 7 partite consecutive senza veder saltare la sua panchina? Sentiamo la risposta di Ferrara, sentiamola. Sia con tanti ragazzi che possono poi diventare molto bravi. Direi che sia quasi unico nel panorama calcistico, almeno in quello italiano, però questi erano anche i rischi che ognuno di noi ovviamente ha accettato, la società, la proprietà, il sottoscritto, di fare un certo tipo di lavoro, sapendo che qualche difficoltà l'avremmo incontrata. Purtroppo noi abbiamo avuto una serie negativa, devo dire che anche nella serie negativa, a parte la prestazione di Palermo, dove obiettivamente non abbiamo fatto bene, per il resto ci sono state alcune sconfitte in cui magari avremmo potuto portare a casa non dico una vittoria ma un pareggio di sicuro. E sì, anche a San Siro con l'Inter ad esempio la Sampdoria era stata particolarmente sfortunata. Saluto e ringrazio Roberto Renga, buon pomeriggio Roberto. Sì, buon pomeriggio, a andiamo tutti. Però rapidamente per un aggiornamento sulla Formula 1, Dario Ricci. Sì, siamo al 30° giro, si è appena tolta dalla pista la safety car che per 5 giri è rimasta appunto sul circuito per permettere di togliere i detriti che si erano accumulati, e allora in testa Hülkenberg, poi Button a 1 secondo e 1, Hamilton a 3,8, Fernando Alonso è quarto davanti a Kobayashi che ha superato Vettel. C'è stato un momento stranissimo perché appena uscita la safety car praticamente Vettel è stato attaccato sì da Kobayashi ma anche da Webber, dal suo compagno di squadra, che nel tentativo di superarlo però è andato lungo proprio alla prima curva. Diverse ancora le incognite da sciogliere in questo Gran Premio. Innanzitutto ha ricominciato a piovigginare, poi la Ferrari di Alonso è l'unica tra le vetture di testa con le medie, probabilmente c'è l'obiettivo di provare ad arrivare a fine gara senza ulteriori pit stop, gli altri hanno tutte le dure. E poi nella collisione, nella toccata del primo giro, Giovanni, proprio la vettura di Vettel, Red Bull, è rimasta comunque lesionata all'altezza della posteriore sinistra. Dovremo vedere e valutare. Insomma, c'è ancora vita. C'è ancora vita in questo mondiale, in questo Gran Premio. Di questo tocco. Va bene, grazie Dario, resta lì che poi torneremo per l'aggiornamento. Roberto Renga, beh, c'è ancora vita, questa è una buona notizia. Io immagino anche tu sia ferrarista. Siamo tutti ferraristi, penso. Siamo tutti sulla macchina di Alonso. Sì, siamo tutti a spingere, su questo non c'è dubbio. C'è ancora vita fino a quando la Ferrari può vincere, come c'è ancora vita per la Formula 1 fino a quando la Ferrari è in corsa. Ah, non c'è dubbio. I giornali vendono moltissimo quando la Ferrari vince. Sì, diciamo che farebbe un favore non solo a se stessa, io credo, oggi conquistando questo mondiale, la Ferrari, Alonso. Io credo che dopo 2 anni di vittorie per Vettel e la Red Bull, in alcuni momenti anche di dominio, sarebbe comunque un segnale importante di cambiamento, di rinnovamento in questo piccolo pezzo di storia del mondiale di Formula 1. Ma sì, anche perché sai che con la Formula 1 spesso ci si annoia, invece un finale di questo tipo sarebbe bellissimo, per questo sport che in passato è stato meraviglioso e trascinante, e che per me lo è solo se vince la Ferrari, lo ammetto. Ma io nel, calcio non sono tifoso, ma nella Formula 1 sì. Credo lo sia per molti. Con Roberto Renga allora riapriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. Una prima pagina che dice che è il giorno della speranza rossa, ma lo abbiamo sentito, Vettel sta incantando a San Paolo, in questo momento il titolo è strettamente nelle sue mani, però siamo soltanto a metà Gran Premio, ve lo raccontiamo in diretta. E poi il calcio con la Fiorentina che pareggia a Torino, malgrado le emergenze, ed è seconda in attesa di Inter e Napoli, e poi terza vittoria nelle ultime quattro partite per la Roma, che ha imparato a non prendere gol. Poi questa sera Milan-Juventus all'insegna del come eravamo, Conte ha scelto Quagliarella con Vucinic, e poi c'è Allegri a nervi scoperti, Berlusconi di fatto ieri lo ha licenziato in diretta perché vuole Guardiola. E infine le parole di Stramaccioni, Sneijder è fuori per scelta mia, in questo momento non fa parte della formazione migliore, la vicenda dell'esclusione dell'olandese per motivi contrattuali però continua a far discutere. Roberto Renga, la Roma che non prende gol, ed è la terza volta che capita in questo campionato, non vogliamo contare ovviamente il 3-0 a tavolino di Cagliari, no. Ed è la seconda volta consecutiva dopo il 2-0 contro il Torino, io credo sia una notizia che merita di essere sottolineata. Per carità, come merita di essere sottolineata è un'altra notizia, che Zeman ha chiuso la partita di Pescara contro il Pescara praticamente con il catenaccio, con una sola punta che era Totti, che in realtà in questa Roma poi fa il regista. E questa è un'altra cosa assolutamente insolita. Devo dire che la Roma non ha preso gol in due occasioni, e proprio quando per due volte ha giocato davanti alla difesa Bradley, l'americano che non è molto considerato, stranamente non è molto considerato perché il ragazzo è bravo, ma soprattutto è disciplinato, è uno dei pochi nella Roma che sappia giocare anche nella fase di interdizione, che vada a raddoppiare, che vada a coprire, non ha il colpo di testa, però non si può chiedere tutta la vita. Va anche detto che la Roma in queste due occasioni non ha affrontato partite terribili, perché il Torino, che gioca molto bene a Roma, ha sbagliato una delle poche partite della stagione, forse l'unica, e il Pescara oggi è sembrato chiaramente in difficoltà tecnica. Sì, Pescara che fa davvero fatica a stare al livello di questa Serie A, dispiace dirlo, tra l'altro la classifica non lo condanna perché in fondo il Pescara è lì nel gruppone insieme a tutti gli altri, però evidentemente c'è qualche gap, qualche problema di approccio, del resto una squadra che perde Insigne, Immobile e Verratti, è difficile che possa trovare in fretta un nuovo equilibrio e presentarsi in Serie A. Sì, ha perso anche Zeman, no? Che era poi probabilmente l'elemento in più, no? Nel Pescara dell'anno scorso, nel Pescara che ci aveva fatto innamorare tutti. Oggi con Bergodi abbiamo trovato la difesa 3, in molti casi a 5, abbiamo trovato forse addirittura una difesa 11, perché Bergodi è arrivato per fare l'opposto, gli è stato chiesto, immagino, l'opposto di quello che aveva fatto Stroppa. Non cercare di imporsi con il gioco, ma semmai imporsi con il non gioco, cercando di bloccare gli avversari. Cosa che gli è riuscita parzialmente, nel senso che la Roma ha fatto soltanto un gol, ma altri ne poteva fare, però non ha mai tirato in porta, non è mai riuscita a tirare in porta. L'unica occasione per la squadra di Bergodi, dicevo, l'unica occasione l'ha regalata con il Cocea, con un'uscita sbagliata, un po' poco. Sì, assolutamente. Per chiudere invece, tornando a Zeman, prima è stato un po' punzecchiato, lo abbiamo sentito in diretta da Sky Sport sulla storia del mediano davanti alla difesa, ha detto sono 40 anni che io gioco così, probabilmente ha detto una mezza bugia in realtà, perché effettivamente un po' più di prudenza l'abbiamo vista. Però lui giocava così, con Di Biagio davanti alla difesa, per esempio nella Roma, no? Quella storica. Quindi ci sta, giocava anche con Di Matteo nella Lazio. Ma tu dici che Bradley è il giocatore giusto in quel ruolo, in questa rosa, il che escluderebbe ad esempio De Rossi da quella posizione? Io penso che Bradley sia più adatto di tutti, ma soprattutto nel momento in cui tu vuoi coprire la difesa, e la difesa della Roma ha sempre necessità di essere coperta. De Rossi non dà la palla in verticale, nemmeno Bradley lo fa, ma Bradley è forse c'ha più disciplina tattica probabilmente. E Taxidis è uno che c'ha il lancio lungo, però non sa marcare ed è lento da morire. La verità è che probabilmente in questa Roma manca la figura del regista. Non c'è il regista giusto, che era Di Biagio per intenderci, e per cui lui volta per volta dovrà adattarsi. Sì, probabilmente, e probabilmente gli serve ancora qualche partita per arrivare alla quadratura del cerchio. Roberto, ti ringrazio e ti saluto, siamo vicini al GR, noi ci fermiamo per qualche minuto, 800 24 0024 per dirci che cosa ne pensate, subito dopo poi ancora la diretta della Formula 1, GR adesso. A tempo di sport. 800 24 0024 per telefonare in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Adesso apriamo la grande ampia pagina di Milan-Juventus, però lo voglio dire, questo mondiale lo merita assolutamente Sebastian Vettel, che sta lottando come un leone, anche se la sua Red Bull evidentemente ha qualche problema. È stato sfortunato in avvio, probabilmente ha sbagliato la partenza, si è trovato in mezzo al gruppo, si è trovato ultimo dopo un testa coda con contatto. Eppure il mondiale è ancora saldamente nelle sue mani e soprattutto la Ferrari di Alonso non riesce ad avvicinarsi al podio, a quelle posizioni che potrebbero essere utili per provare a sperare in un ribaltone e in una vittoria di questo mondiale. Bisogna essere, io credo, anche onesti e sportivi, dire che in questa seconda fase della stagione la Red Bull ha assolutamente strameritato, ma questo è il mio pensiero. 800 24 0024, ditemi anche voi che cosa ne pensate. Dario Ricci. Come non essere d'accordo, Giovanni? Vediamo, comunque siamo in una fase ancora piuttosto tattica della gara, nel senso che Vettel chiaramente è in settima posizione, in questo momento non forza più di tanto e non va a cercare guai, no? Dopo la clamorosa rimonta che già ha dovuto fare. Alonso perde contatto dai tre davanti, Hülkenberg, Hamilton e Button, adesso è a circa 5 secondi dal podio virtuale da Button, però è anche vero che è molto probabile che le due McLaren, quelle di Hamilton e dello stesso Button, rientrino nei prossimi giri ai box, quindi anche Alonso in qualche modo sta vedendo in queste tornate il da farsi per provare a lanciare un ultimo disperato attacco. Sì, io credo che in questo momento sia la fase più tattica di questa gara, perché Alonso potrebbe trovarsi potenzialmente, virtualmente sul podio tra la seconda e la terza posizione. È vero che non basterebbe, perché anche arrivasse secondo lo spagnolo, per Vettel sarebbe sufficiente arrivare dove si trova in questo momento, e cioè alla settima posizione, però probabilmente in questo momento si sta cercando la strategia per non commettere nessun errore, e la Ferrari si è bruciata e molto nella passata stagione. È proprio così, soprattutto nella prima parte in questa seconda parte del campionato la F2012 ha sofferto, soprattutto in prova, ha costretto sempre Alonso a delle imprese clamorose in gara per recuperare il gap accumulato il sabato. Ricomincio a piovigginare in modo un po' più intenso, visto, Giovanni, l'attenzione che stiamo mettendo sul tema meteo inevitabile in questa gara, la pioggia si fa un pochino più intensa, vedremo come influenzerà le scelte di questi ultimi 24 giri del campionato mondiale 2012. Quindi vuol dire che manca poco più di mezz'ora, sarà comunque una gara molto lunga che si avvicinerà alle 2 ore, che è il tempo massimo per un Gran Premio. Grazie Dario, torniamo da te fra qualche minuto. Saluto Tony Damascelli, buon pomeriggio Tony. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a chi si ascolta. E Franco Ordine, buon pomeriggio Franco. Eccoci qua. Tutti e due davanti al televisore a seguire la Ferrari? Io veramente ho finito adesso di una trasmissione, per cui sto per andare a San Siro. Va bene, Tony? Sto guardando la Ferrari. Cosa ne pensi? Ma è una corsa molto pazza. Molto pazza, perché il tempo continua a cambiare, il clima continua a cambiare. Sono l'inseguimento sia Vettel che Alonso di una posizione un po' più tranquilla, ma mancano 23 giri, hai detto prima mezz'ora. Sì, manca ancora una vita in realtà. Può succedere ancora di tutto. Certamente. Mezz'ora può succedere ancora di tutto. Che cosa può succedere invece, Franco, questa sera a San Siro? C'è da verificare se si ripeterà l'effetto taumaturgico della visita di Berlusconi, però è anche vero che l'ostacolo di questa sera, cioè la Juventus, è un ostacolo altissimo, anche se io credo che rispetto a 10 giorni fa ci sia di positivo per il Milan, che si è scaricata un po' di pressione grazie alla vittoria a Bruxelles, al pareggio di Napoli. Insomma, la situazione, almeno dal punto di vista dell'approccio a questa gara, è una situazione diversa, più facile? No, più facile non direi, diciamo che ci sono meno pressioni, meno attese, meno aspettative, non soltanto perché ha già raggiunto gli ottavi di Champions con un turno d'anticipo, ma soprattutto perché nel pronostico è nettamente sfavorito, perché la differenza abissale nei punti in classifica è tale da lasciare sulle spalle della Juve tutta la responsabilità, diciamo, e tutto il peso e il ruolo del grande protagonista della sfida. Cosa può succedere? Se non succedono cataclismi, succede che vince la Juve. Cioè, è un po' come tra Alonso e Vettel: se non si fa la danza della pioggia, se non piove, se non entra la safety car, il più forte si sa chi è. Poi però può succedere di tutto, come ci ha raccontato anche qualche mezzo passo falso della Juventus in questa stagione. Tony? Sì, certo, sono d'accordo, ma la Juventus ha moltissimo da perdere, ha moltissimo da perdere. Arriva dopo l'euforia di Coppa, che potrebbe essere controproducente, mentre il Milan è più sereno, secondo me. Al di là della differenza tecnica e di classifica tra le due squadre, queste sono partite che non c'entrano niente con la classifica, si trovano stimoli, motivazioni, quindi poi c'è quel precedente abbastanza clamoroso, senza abbastanza, dell'anno scorso, quindi Milan ha tutte le vitamine per giocare la partita, poi non ho detto che la vinca, ma per giocare la partita. La Juventus sa benissimo di avere un peso sulle spalle più forte, più duro. Sì, che probabilmente da questa partita in tanti si attendono un ulteriore segnale sulla supremazia della squadra di Conte, segnale che io credo verrebbe fortissimo in caso di vittoria questa sera a San Siro, e da un certo punto di vista depotenzierebbe anche gli impegni che hanno domani in trasferta, che sono tutt'altro che semplici, quelli di Inter e Napoli. Ma guarda, io penso questo. Adesso quello che succede domani sera sia a Parma con l'Inter che a Cagliari con Napoli è un altro capitolo, un'altra storia. Qui è la Juve che, insomma, sta facendo corsa da sola. Insomma, io penso che a questo punto della stagione, poiché tra l'altro quello che è successo martedì a Torino ha avuto, dice, può avere un effetto, questo sì, un effetto molto positivo, oltre che sull'autostima, sulla sicurezza, sul morale di questa squadra, che aveva da ribaltare un giudizio e un pregiudizio nelle sue prestazioni fin qui a livello di Champions League. Si è liberata anche di questo tabù e mi sembra obiettivamente che non abbia più, a parte l'assenza di Chiellini, non abbia più altri problemi da risolvere da qui alle prossime ore. Sì, tra l'altro mi sembra che Conte in questa fase della stagione in queste settimane abbia anche in parte accantonato il turnover, perché poi la Juventus da 3-4 partite sta giocando più o meno con lo stesso telaio. Tony Damascelli, Franco Ordine, vi chiedo un minuto di pazienza perché poi voglio sapere che cosa ne pensate della vicenda Allegri-Berlusconi, però abbiamo le informazioni sul traffico. Traffico. A tempo di sport. 800 24 00 24, telefonate per dirci in diretta cosa ne pensate di questo mondiale di Formula 1 che si sta chiudendo, e poi anche di Milan-Juventus di questa sera. Un flash, Dario Ricci, 15 secondi sul Gran Premio. 20 giri alla fine, Hamilton in testa, ha approfittato di un testa coda di Hülkenberg 3 tornate fa, poi Button, Alonso a 9-8 dalla testa della classifica, Massa, Kobayashi, settima posizione per Sebastian Vettel. E quindi questa è una posizione che ancora tiene il mondiale saldamente in mano del tedesco. Franco Ordine, ci aiuti a capire davvero che cosa è successo dietro le quinte a Milanello ieri, perché in molti oggi scrivono e hanno sottolineato come l'annuncio di Berlusconi sul Milan, che sta seguendo Guardiola e di averne parlato direttamente con Allegri sia un po' il rituale, forse non il modo migliore di preparare non soltanto, io credo, una partita così importante come quella di questa sera, ma la seconda metà della stagione, perché siamo soltanto a metà novembre, siamo al 25 novembre. Sì, ma questa non è una novità. Nella carriera milanista di Silvio Berlusconi, fin dai primi giorni, dalla famosa temerata contro la crostata a Barcellona, c'è stata la voglia e ci sono stati anche i risultati di rovesciare molti luoghi comuni del calcio, anzi di rivoltarlo in qualche circostanza come un calzino, visto che si trattava di vecchie abitudini e soprattutto di vecchi modi di pensare. Anche in questo caso mi sembra che sia stata applicata una regola che vale nell'imprenditoria, e cioè quella di riservare al proprio collaboratore un trattamento di lealtà e di trasparenza, senza negargli nessun tipo di nascondergli nessun tipo di trattativa. Questo è quello che è accaduto. Certo, Allegri non l'ha presa giusta, non perché consideri Guardiola un'alternativa poco credibile, ma no, perché, assolutamente, però gli rende più difficile il lavoro, esatto, da qui a maggio. Perché insomma, più difficile no, perché i giornali sono pieni e lo sanno tutti che questo sarebbe accaduto. Intanto bisogna poi vedere come va a finire la trattativa, perché non sono così sicuro che poi Guardiola si possa presentare sulla panchina di San Siro. Altra cosa che comunque diciamo, questo tipo di atteggiamento è stato anche in qualche modo impreziosito da altro, e cioè dal fatto che è stato Berlusconi in persona a, tra virgolette, trattenere Allegri sulla panchina del Milan. Qualunque altro presidente nei giorni scorsi, nelle settimane precedenti, dopo quel disastro iniziale, lo avrebbe allontanato e avrebbe deciso di cambiare manico, come si dice in gergo. E quindi insomma, lì c'è stata anche lì, in questa circostanza, una dimostrazione, oltre che di stima professionale, di affetto nei suoi confronti. Sì, è comunque un modo diverso di approcciare una situazione che evidentemente non piace a Berlusconi, non piace ai vertici milanisti, però è la situazione in cui il Milan è in questo momento. Tony, secondo te è più forte o più debole Allegri da qui alla fine della stagione, dopo la giornata di ieri? Ma Allegri già ha cambiato le sue scelte tattiche, ha seguito alcuni suggerimenti che gli sono arrivati da chi sa di calcio all'interno della società, e quindi già questo conferma l'intelligenza dell'allenatore. Dopodiché Silvio Berlusconi è il padrone di questa squadra, ci mancherebbe altro, un suo consiglio, il suo intervento è sempre utile e prezioso. Il Milan in questo caso ha confermato una educazione, diciamo così, di comportamento che altri presidenti e altri club non hanno avuto nel recente passato. Io sto vedendo che nel giro di pochi giorni quelli che sono passati dall'altra sponda di Milano, uno ieri ha perso col Siviglia, ha subito protestato con gli arbitri, l'altro è uscito dalla Coppa e sta pareggiando oggi a Londra. L'altro che sta a sì, Londra, siamo sullo 0-0 fra Chelsea e Manchester City, sì, lo diciamo agli amici Benitez, da casa. Mancini, l'unico che è praticamente felice è Gasperini, quindi è anche questo un po' paradossale che ha vinto il derby. Questo è il football, ma il Milan non è una sorpresa quello che sta accadendo. Sarebbe stata una sorpresa se avesse licenziato un mese fa l'allenatore. Certo, Franco, poi ti salutiamo e ti lasciamo andare a San Siro. Sai qualcosa delle scelte di Allegri? C'era questo dubbio sull'utilizzo o meno di Boateng come falso centravanti, come in parte aveva chiesto ieri proprio Berlusconi? No, dunque ieri Berlusconi non aveva parlato di Boateng falso centravanti, aveva parlato la settimana. Sì, aveva parlato di Robinho anche ieri. Aveva parlato di Robinho, e credo che insomma sia questa l'idea, cioè di tenere Sarabia a sinistra, di tenere Boateng a destra e di mandare invece Robinho a ballare tra i giganti della difesa juventina. Questa potrebbe essere l'idea. Grazie a Franco Ordine. Ti chiedo ancora un minuto di pazienza invece, Tony, subito da Dario Ricci, perché c'è una svolta nel Gran Premio. Dario, assolutamente sì, 55esimo giro e in modo... modo clamoroso si toccano Hülkenberg ed Hamilton, la Force India va in testa coda, ma la peggio l'ha sicuramente la McLaren dell'inglese, che viene danneggiata nell'anteriore sinistra e costringe quindi Hamilton a ritirarsi. Quindi ora in testa c'è Button, davanti allo stesso Hülkenberg, e Alonso che sale in questo momento sul podio, terzo virtuale. Quindi Alonso terzo, mentre Vettel dovrebbe guadagnare anche lui, io credo, una posizione, dovrebbe essere tra la sesta e la settima. A questo punto, essendo ritirato Hamilton, dovrebbe essere tra la quinta e la sesta, e vedremo anche come reagirà la McLaren e la Force India di Hülkenberg, perché c'è stato sì il test a coda, è parsa appunto danneggiata nel tocco che c'è stato inevitabilmente, visto che invece la McLaren di Hamilton è stata costretta al ritiro. Allora Vettel, che mi pare stia uscendo adesso dai box, dove ha effettuato il pit stop in dodicesima posizione. Ovviamente poi c'è il gioco dei pit stop e quindi non è in questo momento dodicesimo il tedesco, però certamente questo scontro fra Hülkenberg e Hamilton riapre la gara e probabilmente il mondiale. Tra pochi minuti di nuovo sulla Formula 1. Tony, per chiudere invece, visto che abbiamo parlato di comportamenti societari, volevo capire qual era il tuo pensiero sulla vicenda Snyder. Ne abbiamo parlato ieri con il presidente della Lega Beretta, oggi con Pietro Lo Monaco. Entrambi dicono alla fine l'interesse di tutte e due le società è arrivare a una separazione, e quindi è giusto anche che ci sia una condivisione di un percorso. A me, e questo è il mio parere, e chiedo anche agli amici da casa 800 24 00 24, chiedo che cosa ne pensano. A me sembra che sia una lettura troppo buonista questa, cioè in passato alcune società e alcuni presidenti sono stati crocifissi per atteggiamenti simili. Allora diciamo così, secondo me il grande errore commesso dall'Inter attraverso il suo portavoce nel senso direttore generale o Brandt, è quello di aver detto o fa così o non gioca. Perché lo dico? Perché l'articolo 610 del codice penale dice testualmente, e poi spiego perché, chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa è punito con la reclusione fino a 4 anni. Tu direi, ma cosa c'entra? Beh, questa è la sentenza. No, io dico che ricorda un processo che si è svolto. Certo. Oggi. Quindi, volendo applicare per la proprietà transitiva, però conoscendo l'aria che tira in questo paese, per cui dopo lo sfogo di Moratti, il presidente della federazione ha detto capisco lo sfogo di Moratti, la stessa cosa non l'ha detta per lo sfogo di Pulvirenti, per lo sfogo di Galliani, per lo sfogo di Lotito, penso che non accadrà nulla. Non è una bella immagine per il club di Massimo Moratti, però finirà in cavalleria. Sì, è comunque una situazione strana, io l'ho definita una zona grigia. Ho letto oggi delle letture di quello che sta accadendo, secondo me sin troppo concrete, mentre in realtà io penso che ci sia alle spalle uno scontro abbastanza duro fra il giocatore, il suo entourage e la società. Certo. Al di là delle ragioni della società, che però vanno secondo me andrebbero illustrate in una maniera diversa, ma ribadisco, mi sembra che ci siano fili scoperti all'Inter da un po' di tempo, e l'errore di comunicazione sul caso Snyder è stato secondo me clamoroso. Sottoscrivo, grazie Tony. Prego, a voi. Grazie a Tony Damascelli. Rapidamente intanto chiedo a Ferdinando a Roma un minuto di pazienza, c'è ancora un momento chiave mi sembra nel Gran Premio di San Paolo. Dario. Siamo al 58esimo giro, Giovanni. Allora, pochi istanti fa, pit stop per Alonso che ha cambiato le gomme in 3 secondi e 3. Poco prima c'era stato il pit stop di Vettel che avevamo raccontato in diretta, abbiamo avuto l'occasione di rivederlo nel replay. Ebbene, guai alla Red Bull, perché per montare l'anteriore destra hanno perso diversi preziosi secondi. Nel frattempo, drive-thru, penalità per Hülkenberg proprio a causa della collisione che la Force India ha provocato. Sì, perché alla fine la collisione era provocata proprio da Hülkenberg. Esattamente, è stata causata da Hülkenberg, penalizzato dai commissari. Quindi ora in testa abbiamo Button, secondo Massa, terzo Alonso e Vettel è in ottava posizione. Considera che quel terzo posto di Alonso è un virtuale secondo, perché credo che Massa in caso di esigenza si farà gentilmente da parte. Siamo lì al limite, perché se Alonso arriva secondo, Vettel è campione, è arrivando ottavo. E quindi siamo davvero sul filo dei secondi. Dario, rimani con noi. Ferdinando da Roma, buon pomeriggio. Salve. Prego. Io da tifoso italiano e ferrarista auspicherei che comunque sono rimasto un pochino deluso dal comportamento della Ferrari del scorso Gran Premio, quando hanno quello di Austin in Texas. Da sportivo non vorrei mai vedere queste cose. Certo, però mi sembra che invece in questa occasione, in questo Gran Premio, il comportamento sia assolutamente lineare, e lo dico rispondendo anche a Marco da Cremona, che al 349-238-6666, io non so se e quanto provocatoriamente chiede perché Massa non rallenta e mette fuori gara Vettel, costringendolo al ritiro, perché così è accaduto in passato anche con altri episodi e con altri piloti illustri, ad esempio Prost. Mi sembra però, Dario, che fin qui ci sia un comportamento assolutamente lineare della Ferrari, così come della Red Bull, perché hai raccontato tu dell'incredibile tentativo di sorpasso del compagno di squadra di Vettel. Direi proprio di sì. In questo momento, tra l'altro, Giovanni, proprio Hülkenberg sta scontando il suo drive-thru, finora comportamenti assolutamente lineari. Devo dire che però, in virtù anche del nuovo regolamento, che è dato sostanzialmente già libera agli ordini di scuderia dai box, non sarebbe scandaloso, almeno a mio modesto parere, se Massa dovesse far spazio ad Alonso per conquistare una posizione. Sarebbe semplicemente un calcolo logico e matematico. Comunque mancano ancora 12 giri alla fine, tutti da seguire, anche perché la pioggia progressivamente, ce l'eravamo quasi dimenticata, sta aumentando di intensità, quindi asfalto sempre più scivoloso e colpi di scena dietro l'angolo. Sì, tra l'altro Vettel in questo momento è settimo, lo separa dall'ottava posizione un piccolo muro, 2 secondi, ottavo Kobayashi, presumendo che Alonso possa comunque guadagnare una posizione ed arrivare secondo, superando il compagno di squadra Massa, che in questo momento è secondo, perché il mondiale vada alla Ferrari, Vettel dovrebbe arrivare ottavo, Kobayashi è alle sue spalle, lo ripetiamo Dario, di poco più di 2 secondi, giusto? Sì, esattamente, quindi ecco, nel caso Fernando Alonso arrivasse secondo per conquistare il mondiale, Vettel dovrebbe arrivare, cioè per far sì che il ferrarista possa conquistare il mondiale, Vettel dovrebbe arrivare ottavo o peggio. Sì, ricordiamo che a parità di punti è iridato Vettel, perché ha vinto più gran premi dello spagnolo, e quindi in caso di parità di punti al termine di questo mondiale, il mondiale va alla Red Bull. Ci fermiamo, piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo ancora per raccontarvi il finale emozionante di questo Gran Premio di San Paolo. 800 24 00 24. Chiamate in diretta per dirci che cosa ne pensate e che cosa pensate anche di Milan-Juventus, perché mancano 2 ore e 15 minuti alla partita clou di questa giornata di campionato. Pubblicità. A tempo di sport. Mi sembra che piova, se non a catinelle, con maggiore intensità a San Paolo. Dario. Piove, Giovanni, hai proprio ragione, mancano 9 giri alla fine e in questo istante ancora Sebastian Vettel sarebbe campione con un solo punto di vantaggio su Fernando Alonso. In testa Button, poi Massa a 18 secondi e 3, Alonso terzo a 28, 30 secondi il distacco di Webber dal battistrada, poi Hülkenberg 31,7, Michael Schumacher all'ultima gara in carriera 47 secondi da Button e a 48,6 in settima posizione Sebastian Vettel, che chiaramente sta cercando di amministrare la sua Red Bull in questi ultimi 8 giri, gomme intermedie per tutti. E Vettel che procede in settima posizione sotto una pioggia che si fa sempre più battente. assente e dire che proprio le previsioni dei box avevano detto che sarebbe finita un quarto d'ora fa. Sì, mancano 8 giri, il che significa che mancano all'incirca poco meno di un quarto d'ora alla fine di questo Gran Premio. Ho l'impressione, Dario, che se va avanti a piovere così ci potrebbe anche essere l'ipotesi di prendere in considerazione un rientro ai box per montare delle gomme più adatte, perché vedo Vettel in difficoltà a tenere in strada la sua Red Bull. Potrebbe anche essere un'ipotesi, è certo che però Vettel non ha amplissimi margini per poter fare anche questa scelta, perché Kobayashi è appena a 3,5 secondi da lui, più ampio chiaramente il vantaggio sul nono, Verne è praticamente staccato di 1 minuto, ma stando così le cose con Alonso virtualmente secondo, Vettel ha ben pochi margini per rischiare un altro pit stop, quindi è una gara che ancora è sul limite, viste anche le condizioni della Red Bull, che lo ricordiamo ha avuto sempre questo colpo al primo giro, questo urto sulla parte posteriore sinistra che sicuramente ne ha condizionato le prestazioni aerodinamiche. Non c'è dubbio. Eugenio da Forlì, buon pomeriggio, anzi buonasera. Ah sì, buon pomeriggio. Prego. Buon pomeriggio. Prego, volevo Eugenio. Solo dirvi, non era una cosa, era soltanto che parlavate sempre di calcio, c'è un mondiale in ballo. Sì, mi sembra Eugenio che gli stiamo dando spazio, no? Sì, adesso al telefonino, ma adesso io è da un'ora che vi ascolto, è sempre sto mondiale, sto Milan, sto Juventus, queste due cose qui così e basta. Cioè, va bene. C'è un mondiale in ballo che è molto più importante. Certo. Cosa ne pensa? Io penso che lo meriti Vettel, al di là di come andrà a finire, in questo momento c'è un autentico diluvio su San Paolo e quindi può succedere di tutto nel prossimo quarto d'ora. Può succedere di tutto. Io sono contento sia se vinca Alonso sia che vinca Vettel, perché sono sempre stati dei miei piloti, perché io facevo il gommista a loro con la Minardi e con la Toro Rosso, perciò io sono contento sia per tutti e due, ecco. Cos'è che passa nella testa lì su un circuito in questo momento? Io credo, mi faccio aiutare da lei Eugenio, visto che quel mondo l'ha praticato, io credo ad esempio che Vettel si stia chiedendo se conviene rientrare o no, ma non può farlo se non lo fa Alonso, se non lo fanno tutti gli altri. Penso che sia anche un sottile gioco psicologico, oltre che tecnico. Esatto, c'ha ragione. Lì a San Paolo c'è da stare attento a quel famoso rigagno là di dietro, alla parte opposta dei box, perché c'è quel rigagno famoso che è quello che fa danni. Certo. Noi abbiamo perso una gara con, adesso non mi ricordo, mi sfugge il pilota, quando c'eravamo noi con la Minardi, che eravamo in testa e poi dopo ha vinto Fisichella, ha vinto. Intanto Dario, 3 punti in questo momento virtualmente di vantaggio su Vettel, su Alonso, perché? Vettel ha passato Michael Schumacher e si è portato in sesta posizione, bravo a sfruttare la superiorità della sua Red Bull, ma aspettavo un po' di resistenza in più da parte di Schumi, al passo d'addio in carriera, ma insomma bravo Vettel a rinsaldare il suo titolo virtuale, che ora fra 6 giri, mancano 6 giri, potrebbe diventare il terzo titolo reale. In testa sempre Button, lo ricordiamo, con 20 secondi su Alonso, che nel frattempo è passato Felipe Massa, quindi primo Button, poi Alonso, Massa, Webber, Hülkenberg e poi Sebastian Vettel. Sì, non c'erano dubbi Eugenio, e poi la salutiamo, perché in fondo anche il gioco di squadra fa parte della storia della Formula 1, dei riti, certo, della Formula 1. Ci vuole sempre il gioco di squadra, ci vuole. E non necessariamente si può parlare di antisportività, come ha fatto e scritto qualche amico da casa al 349-238-6666. Grazie Eugenio. Antonio da Brindisi, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Volevo intervenire sul caso Schneider. Sì, dica. Per dire 3 cose velocissime. La prima, che ho sentito le dichiarazioni di Stramaccioni in conferenza stampa oggi, praticamente parlava prima di scelta tecnica. Prima incattava il giocatore, poi parlava di scelta tecnica, poi diceva che andava con la società, quindi penso che ci sia stata un po' di confusione. No, io penso più che confusione, vorrei... Antonio, che semplicemente Stramaccioni sia stato aziendalista fino in fondo. L'Inter ieri ha parlato con grande chiarezza, probabilmente anche troppa, ne discutevamo prima con Toni Damascelli, e oggi Stramaccioni ha provato a mettere una toppa sul buco, ha provato a mettere il suo cappello su questa scelta. Poi è evidente che è difficile sostenere che Snyder in questo momento non è un'opzione utile per Stramaccioni, tra l'altro nel giorno in cui Stramaccioni dice ad esempio che l'assenza di Cassano, che mancherà nelle prossime due partite, è un'assenza gravissima per la sua Inter. Prego Antonio. E poi due cose veloci: i contratti secondo me vanno rispettati da ambo le parti, sia dai giocatori che dalle società. E terza cosa, volevo sapere la vostra opinione rispetto alla differenza che è stata fatta qualche anno fa, quando fuori squadra furono messe persone come ad esempio Davis, Giuliano, c'è Blaschi e un altro giocatore della Juve, allora si parla di piccoli, ecco, adesso ricordo, si parla di violenza privata, adesso si parla di stand-by. Qual è la differenza tra il caso Snyder e il caso di quei giocatori della Juve? No? Grazie Antonio, ne abbiamo parlato prima con Toni Damascelli, al di là che poi quelle vicende che lei ricorda sono vicende che fanno parte anche di un faldone processuale, e quindi poi esistono anche delle sfumature, e quindi anche lasciando stare quello che è accaduto in quegli anni e restando ad anni più recenti, io, e l'ho detto chiaramente, non trovo una grandissima differenza tra quello che sta accadendo in questo momento fra l'Inter e Snyder e quello che ad esempio accade alla Lazio con Diakité o è accaduto negli ultimi anni con giocatori come Ledesma o Pandeve. Sono vicende che poi sono finite anche davanti al collegio arbitrale della Lega Calcio, e in un caso quello di Pandeva hanno portato alla rescissione per giusta causa. Io non vedo una grande differenza, forse l'unica differenza che c'è in questo momento è che nel momento della firma del rinnovo del contratto collettivo per i calciatori è stata inserita qualche clausola che permette la rinegoziazione dei contratti, però, e lo ripeto anche se Alessandro ci accusa di usare dei termini troppo soft, secondo me siamo ancora in una zona grigia, e non è detto che dal punto di vista quantomeno della comunicazione l'Inter non abbia sbagliato ieri a rendere pubblica in questo modo la vicenda Snyder. Dario, siamo a 3 giri credo. Sì, 4 giri alla fine, Jenson Button sempre in testa, Fernando Alonso prova a stargli in scia, distacco intorno ai 20 secondi, poi Felipe Massa, Mark Webber, Hülkenberg e poi Sebastian Vettel che prosegue ad amministrare la sua posizione, la sua sesta posizione che gli garantirebbe appunto, ed è sempre più vicino, il terzo titolo mondiale consecutivo. Pioggia che si mantiene costante in questo istante, quindi rimane comunque sempre un'insidia, e chiaramente si sommano anche la fatica di una gara con tanti colpi di scena e anche chiaramente il logorio dei mezzi. Comunque situazione abbastanza stabile in questo giro, anche se ora la pioggia aumenta di intensità. Sempre Button davanti a Alonso, Massa, Webber, Hülkenberg, Sebastian Vettel, poi più dietro Michael Schumacher, Kobayashi, Vergne, e di resta questi 10 piloti ancora a pieni giri, Giovanni. Sì, mi sembra di poter dire che Schumacher non ha la possibilità di insidiare Vettel in questo momento, sta perdendo contatto, è a oltre 8 secondi, evidentemente ha delle difficoltà, e questo potrebbe anche spiegare la scarsa resistenza nel momento del sorpasso di Vettel. Sì, direi proprio così, che questa può essere la chiave di lettura, anche perché il tedescone rispetto al tedeschino Vettel, Michael Schumacher al passo d'addio avrebbe avuto credo tutta la voglia di dar battaglia e spettacolo. Siamo però intorno a un distacco dei 9 secondi, quindi vuol dire che la sua Mercedes più di tanto in questo istante non riesce a dare, così come probabilmente anche la Ferrari di Fernando Alonso, preso in questa posizione intermedia. Direi che oggi la squadra ha lavorato al meglio delle sue possibilità, encomiabile Massa che è stato preziosissimo in partenza e poi in questa fase finale ha lasciato giustamente via libera al caposquadra, ma ora adesso mancano due giri e mezzo alla fine, stiamo a vedere, perché i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Certo, dovrebbe esserci un ritiro di Button o uno di Vettel per cambiare il destino di questo mondiale che sta per scrivere la parola fine. Sì, io credo soprattutto quello del pilota che in questo momento sta conducendo la gara, il che consentirebbe ad Alonso di vincerla, e a quel punto Vettel dovrebbe arrivare quinto, non ci sarebbe più il tempo materiale per riuscire a scalare queste due posizioni. Grazie a Dario. Allora, ci fermiamo, le notizie sul traffico, poi quando torniamo il finale del Gran Premio di Formula 1. Traffico. A tempo di sport. Intanto credo sia finito il mondiale, Dario Ricci? Direi proprio di sì, perché entrerà in pista la safety car in seguito all'incidente della Force India di Resta, che in testa a coda si è andata a schiantare in una curva parabolica a girare a sinistra. Entra quindi la safety car e di fatto l'ultimo giro si farà con la safety car, e di fatto quindi vittoria a Button, secondo Alonso, terzo Massa, quarto Webber, quinto Hülkenberg, e titolo di campione del mondo che va Sebastian Vettel, a questo punto sicuro della sua sesta posizione e quindi anche dell'iride. Sì, dovrebbe girarsi da solo, credo. Saluto Mario Poltronieri. Buonasera Mario. Buonasera, ciao. Cioè, dovrebbe fare tutto da solo Vettel, ma credo che a questo punto assisteremo alla parata di questo ultimo giro dietro la safety car, ma in fondo io dico è anche giusto così. Sì, è giusto, però diciamo che Alonso se lo sarebbe anche meritato, perché Vettel è stato, diciamo, un po' sfortunato, ma ha dato la dimostrazione di non avere la forza di padroneggiare le situazioni difficili che ha invece normalmente Alonso. Quindi diciamo che giusto, ci sono tre punti di differenza che dimostrano il combattimento che c'è stato, però francamente io mi sarei aspettato dalla Ferrari questo tipo di corsa, ed è un risultato molto importante comunque, perché Alonso ha dimostrato ancora una volta di essere il migliore e la macchina di non essere eccellente, anche se con la pioggia si è dimostrato che quello che si diceva in prova, si supponeva in prova, ha sicuramente leggermente favorito la Ferrari. Ma quello che mi ha stupito, diciamo così, in negativo, è stato un po' il nervosismo che ha dimostrato Vettel, un campione del mondo giovane, un campione del mondo che si ripete per la terza volta, ma che ancora non ha la maturità che ha per esempio avuto il suo ex diciamo maestro tedesco, e cioè Schumi, che l'ha fatto tra l'altro passare abbastanza facilmente. C'è da dire però che sono stati corretti quelli della Red Bull, perché non hanno fatto rallentare Webber, che sarebbe stata la garanzia per avere un margine di punti più sicuro. Diciamo siamo davvero in fondo, Dario Ricci. Qua è finito il Gran Premio, sotto la bandiera a scacchi passa Jenson Button, quindicesima vittoria in carriera per lui, poi Alonso, Massa, Webber, Hülkenberg e Sebastian Vettel, campione del mondo per la terza volta consecutiva. È il momento della festa. C'è la festa, proviamo a sentire da Rai Sport se sentiamo anche il ritorno. Gran Premio Brasile ricco di emozioni, podio amaro per Alonso che giunge secondo, e vedremo se riusciremo a captare in diretta le prime dichiarazioni. Sì Mario, tra l'altro io credo che la seconda posizione di Alonso nel mondiale sia acuita anche dalla considerazione che negli ultimi tre Gran Premi, ben due volte ad Abu Dhabi e poi in questo fine settimana qui a San Paolo, Vettel non sia stato imbattibile. Mario Poltronieri? Sì, prego. Infatti, ecco il team radio di Vettel, sentiamolo. Champion! You're the triple world champion, Sebastian Vettel! You are the man! You're a triple world champion! Sono gli ingegneri. Questo è Vettel, con gli ingegneri che si congratulano con Sebastian Vettel. Prego Mario, scusami. No, figurati, ma è una gara così combattuta e così tesa che è chiaro che anche noi siamo ancora sotto la tensione. Diciamo che comunque è stata una gara veramente interessante, che ha concluso un mondiale che nella fase finale, soprattutto anche per merito del circuito nuovo di Austin, ha ridato un grandissimo spettacolo. Oggi francamente è successo di tutto, bisognerà analizzare nel dettaglio quali sono state le vicende per vedere che responsabilità può avere avuto Vettel nel non essere così tranquillo e così sicuro come invece è stato ad esempio il vincitore Button, che tra tutti questi piloti forse non sarà il più veloce, ma sicuramente quello che nelle situazioni difficili padroneggia meglio la corsa e poi va a finire che vince. Diciamo che è stata una vittoria, quella di Vettel, sicuramente non immeritata, però francamente io credevo che lui riuscisse a padroneggiare di più la corsa. Ha avuto certo la sfortuna dell'incidente iniziale e chiaramente questo gli ha costretto una corsa di rimonta, ma partendo con quattro posizioni di vantaggio, cioè gli bastava di arrivare quarto se Alonso avesse vinto, io forse avrei inizialmente fatto una corsa un po' più prudente. Invece, dovendo rimontare, ovviamente ha messo in luce quelli che sono appunto ancora le sue leggere pecche di gioventù. Non c'è dubbio. Intanto Daniela scrive 349-238-6666: Alonso è il più grande pilota attuale, meritava lui il mondiale. Io penso che Alonso vada celebrato, però una volta terminata la celebrazione di Alonso, io credo che sia nell'interesse della Ferrari e nell'interesse dello stesso Alonso, che difatti negli ultimi due mesi lo ha più volte detto, più o meno velatamente, cercare di capire perché dopo la pausa la Ferrari non sia stata capace di svilupparsi sufficientemente per restare al passo della Red Bull. Qui tocchi un tasto però abbastanza delicato, dove dare dei giudizi senza avere elementi in mano tecnici non è forse nemmeno corretto, ma comunque, perché ad esempio se stiamo a sentire le ultime battute di Adrian Newey, il progettista della Red Bull, dice la Ferrari non è così inferiore come continua a dire di essere. La realtà è che la Ferrari, pur avendo a un certo punto cambiato lo staff tecnico quando ha dispensato dalla direzione l'ingegner Costa, non è mai riuscita a trovare un giusto equilibrio in questa macchina tra quella che è l'aderenza che viene dall'aerodinamica e quella che viene dall'insieme dell'assestamento corretto del quadrilatero, delle ruote, cioè delle sospensioni, della posizione. Sì, è sempre mancato qualcosa. Mario, prendiamo insieme Luca da Bergamo, siamo quasi in chiusura. Luca, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Volevo soltanto puntualizzare il fatto che secondo me, ovviamente, Vettel non l'ha rubato nulla a nessuno, anzi si è strameritato questo mondiale. Se però Alonso sì, ci ha messo del suo per cercare di vincerlo, però la squadra secondo me e soprattutto la Ferrari non è mai stata a livello della Red Bull, se non magari in alcuni frangenti della seconda parte della stagione. Però voglio dire, arrivare alla sgrida del podio a 40 secondi, insomma, certo, non sono risultati che portano a vincere un mondiale. Grazie Luca. Mario, metto anche un SMS arrivato al 349-238-6666. Ci chiedono, secondo noi, quando Alonso ha perso il mondiale, e comunque il bilancio per la Ferrari deve essere fallimentare, perché era un mondiale che a più 40 poteva essere in pugno. No, adesso non in pugno, non la metterei così. In pugno no, condivido anch'io. No, secondo me, fermo restando che Alonso rimane tuttora il pilota più completo, che Vettel indiscutibilmente è molto veloce, e anche sotto l'acqua era molto veloce, ma però è ancora giovane, ecco, che adesso ringrazia il suo grande amico ed ex campione. Sì, non dobbiamo dimenticarci che salutiamo e speriamo davvero per l'ultima volta Michael Schumacher, perché sì, oggi era l'ultima gara, parcheggia, speriamo di non rivederlo più in Formula 1, perché il suo ritorno non è stato all'altezza del suo mito. Mario, per chiudere su Alonso, perché poi siamo in chiusura. Beh, comunque che il risultato tutto sommato è regolare. Il distacco di pochissimi punti dimostra che Alonso ha veramente delle grandissime doti. Se avesse avuto una macchina superiore, forse avrebbe potuto vincere. Metto il forse perché, come si è dimostrato anche oggi, basta un attimo perché si vada in testa coda, perché un avversario ti tocchi e ti mandi fuori strada e così via. Quindi è stato un campionato che purtroppo Alonso naturalmente rimpiangerà, perché avrebbe potuto vincerlo nonostante una macchina che non era a livello della Red Bull. Però è, diciamo, come si dice, quel che conta poi nello sport è il risultato finale, e che alla fine sale su quel podio. Grazie Mario Poltronieri. A presto. Grazie Mario Poltronieri. Resta che la Ferrari quel mondiale avrebbe potuto vincerlo, perché la Formula 1 alla fine è uno sport e non una scienza esatta. Siamo in chiusura. Il Chelsea ha fatto 0-0 col Manchester City. Questa sera non c'è Palla Spicchi perché c'è lo speciale sulle primarie del Partito Democratico. Io saluto e ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte e Filippo Aureggi, che si sono alternati in regia. L'appuntamento con lo sport torna domani alle ore 14. Carlo Genta, tutti convocati, mentre a San Paolo Vettel sta facendo il giro del festa.